l'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. 18:07 minuti, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, staremo insieme sino alle 20:30, 800 24 0024, il numero verde per intervenire in diretta. Se invece volete interagire in tempo reale con noi, ci trovate su Twitter, l'account del programma è chiocciola Si può fare 24, il mio è chiocciola Ale Maurizi. E come ogni estate rispuntano i divieti da tutte le parti. Sappiamo che a Roma c'è il divieto a non esagerare coi tavolini a Piazza Navona. Apprendiamo dai giornali di oggi che in Consiglio Comunale a Napoli è scattato il divieto di pernacchia, il divieto di urla, versacci e di deridere i consiglieri comunali, con un ordine di servizio approvato qualche giorno fa. Non so, per dire, a Venezia non si possono fare le buche in spiaggia, quindi i bambini vanno tenuti al guinzaglio, e allora vale tutto, divieto libero per tutti. Chiamateci all'800 24 0024 e raccontateci voi che cosa vorreste vietare. Voglio avere gli occhi di Paul Newman, le labbra Rocky Horror, capelli Lenny Kravitz, i muscoli di Batman, la voce di Sinatra, i soldi di Zidane, Ferrari nel garage. Voglio andare alle feste di Briatore, beccare le terine, lasciare le veline. Voglio essere come più di Dio, non l'ho deciso io, non l'hai deciso tu, l'ha detto la TV. Voglio la mia foto su Novella, 2000 su Eva 3000, voglio un'intervista, stare in bella vista, fare il conduttore, il governatore, forse il retore, non l'imperatore. Voglio andare al Grande Fratello, serata in discoteca, la mia foto nella teca. Voglio essere come più di Buddha, di niente più mi sfugga, non l'hai deciso tu, l'ha detto la TV. Sì, sì, sì. Insomma, si cerca di vietare un po' di tutto, come sempre d'estate, il gelato, i pantaloni corti. Allora, abbiamo detto, a Roma i tavolini in Piazza Navona, a Napoli non si può fare la pernacchia in Consiglio Comunale, un ordine di servizio per i dipendenti del Consiglio Comunale. Non so, a Genova, per esempio, non si può esporre il bucato nel centro storico della città. Oppure ci sono anche i divieti, le richieste di divieto, come per esempio un appello di 400 intellettuali, non ci sono più gli intellettuali di una volta assolutamente, che hanno chiesto di vietare il raduno degli scout, 30.000 scout a Pisa, al parco di San Rossore. Ora dico, gli scout tra l'altro sono persone per bene, aiutano ad attraversare la strada i bambini, gli anziani, quindi insomma bisogna anche fidarsi che non distruggano il parco di San Rossore. C'è un appello degli intellettuali perché non si faccia questo raduno. Divieti da tutte le parti, richieste di divieto. Allora noi vi chiediamo, cari ascoltatori, 800 24 0024 di raccontarci voi che cosa vorreste vietare. Non so, per esempio, io non mi dovete parlare la mattina prima che abbia bevuto il caffè, perché non ce la posso fare. Oppure dalla redazione mi suggeriscono non usare cover assurde del cellulare tipo a forma di animale, e io ne ho vista girare qualcuna. Oppure non si possono possedere più di due cani per coppietta di fidanzato, e anche questo mi sembra legittima. 800 24 0024 e i racconti più belli, le proposte più belle. Naturalmente mettiamo anche oggi a disposizione i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma, dunque anche un premio in cultura. Chiamateci. Oh, ma come si fa? Come si fa a fare quello che è stato fatto il 5 luglio all'Università La Sapienza di Roma? Lo sapete tutti, hai voglia a ridimensionare il professor Vincenzo Mastronardi, psichiatra. Poi dice che uno si deve fidare degli psichiatri e deve andare dallo psichiatra. Criminologo ha invitato Schettino a parlare a proposito del tema del convegno, era dalla scena del crimine al profiling. Si parlava di gestione del panico, e insomma hai voglia a ridimensionare, a dire che adesso poi spiegheremo tutto. Sentiamo, Repubblica TV lo ha raggiunto il professor Mastronardi di fronte a questa notizia assurda, 32 morti, causa l'inchino fatto da Schettino, poi le responsabilità giudiziarie vedremo, invitata a parlare, sentiamo. Allora, a questo punto, venendolo a sapere, mi è giunta voce quindi dei vari avvocati di Schettino, che per par condicio, sapendo che facevamo queste ricostruzioni anche in 3D, perché era proprio dalla scena del film al profiling il tema di ciò che stavamo effettuando, no? e a questo punto mi hanno pregato, dice, per par condicio ho un intervento breve, lo schettino non può non esserci. Mi hanno meno tirato in ballo praticamente, non ho potuto non scrivere il fatto che ci sarebbe stato un commento di schettino. Insomma, il professor Mastronardi, che è stato deferito intanto al comitato etico dell'Università La Sapienza, dopo che sia stata diffusa questa notizia, ha detto: stavamo organizzando questo convegno e si parlava anche della Concordia, quando gli avvocati di Schettino sono venuti a saperlo hanno detto che lui aveva diritto di replica. Ma che c'entra un convegno privato di una università? Non era porta a porta o un'aula di tribunale dove si mette in scena il processo, era un convegno scientifico. Allora, di fronte a questa richiesta non me la sono sentita, ha detto questo professore psichiatra, di non invitare Schettino. Io immagino la faccia degli esperti internazionali che ci saranno stati a questo incontro, o anche dei giornalisti, quando è arrivato Schettino a parlare della gestione del panico. C'è da dire che lui, in quella tragica circostanza, aveva dimostrato sì di essere molto calmo, anche troppo, nel senso che stava andando via con la barchetta mentre il comandante De Falco lo incalzava. Risentiamo. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Guardi Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima di guai. Vado a bordo, cazzo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono qua, non si sente la voce di Schettino in questa intercettazione di quella telefonata, si sente solo De Falco. E Schettino che dice: non sto andando da nessuna parte, sono qua, sto qua a coordinare i soccorsi. Cosa sta coordinando? Vada a bordo. No, ma io non è che mi sto rifiutando, dico. Cioè, lui era calmissimo, quindi forse lo hanno chiamato per questo, perché lui a mantenere la calma, a farsi i cavoli suoi, è stato bravissimo in quella circostanza. Una cosa da pazzi, veramente. Vabbè. 800 24 00 24, un colpo di sole, non lo so, insomma, ripeto, poi uno si dovrebbe fidare degli psichiatri, lo psichiatra, il professor Mastronardi, che lo ha invitato, dovrebbe veramente spiegarci come gli è saltato in mente questa cosa qua. Rischia in un colpo solo di vanificare tutto lo sforzo che è stato fatto per riportare la Concordia nel porto di Genova, l'immagine dell'Italia che si riprende, non lo so, ve lo chiedo. Un titolo come questo arriva all'estero e dicono: ecco, i soliti italiani. Oggi c'è stato l'incontro atteso tra Renzi e Berlusconi, non è che sia uscito niente di particolare, notizia della giornata sul futuro della legge elettorale. Si continua invece a discutere per quanto riguarda la riforma del Senato, del nodo dell'immunità che rimane, l'immunità per i senatori. Gasparri. Non c'è l'impunità. Io ho sempre ricordato l'immunità che diventa impunità. Non diventa impunità, perché le cose che lei ha detto, chiunque può essere indagato, anche gli attuali parlamentari, per tutta una serie di reati possono essere indagati. L'immunità è rimasta solo per due cose: l'arresto, la perquisizione. E quindi ci sono appunto delle procedure e la perquisizione. Il senatore Russo del PD, sempre sull'immunità. Sull'immunità diciamo una parola chiara agli italiani, che ogni tanto pensano che i senatori possano fare qualunque nefandezza e poi essere impuniti. Non è vero, un senatore se sbaglia finisce davanti al giudice e se al terzo grado di giudizio viene riconosciuto colpevole va in prigione, e molti casi anche di queste ore, penso al caso Galan, lo dimostrano. L'immunità rimane soltanto per l'arresto, l'arresto diretto o l'intercettazione, ma sono delle cose, delle regole che valgono in tutti i parlamenti, servono a garantire un rapporto equilibrato tra magistratura e politica, valgono in Germania, valgono in Francia, valgono in Inghilterra, non siamo provinciali da questo punto di vista. Mentre sulle riforme, sulla riforma del Senato, qualunque filo di dialogo tra la maggioranza e le opposizioni si è interrotto, SEL, Lega, 5 Stelle sono tutti su piedi di guerra, si rinfocola il legame con Forza Italia sul tema della legge elettorale, della riforma del Senato, il famoso patto del Nazareno, oggi nuovo incontro Renzi Berlusconi, tanto che Michela Biancofiore di Forza Italia arriva ad immaginare un governo costituzionale. Io non sono convinta che il più forte sia Renzi, e credo che le prossime elezioni lo dimostreranno, almeno che non precipiti tutto, e questa poi è una mia visione personale, non si vada a votare con il Costituzionellum, e lì ovviamente, perché parliamoci chiaro, questo paese si salva solamente con un vero percorso di pacificazione, con una vera grossa coalizione, quindi larghe intese basata, di nuovo. Ma non larghe intese, no, larghe intese, capirci, larghe intese poi, è un termine triste, diciamo governo costituzionale, governo istituzionale, un governo che pensi a salvaguardare l'Italia e gli italiani. Il governatore 800 24 00 24, ci sentiamo tra poco dopo il traffico. E allora andiamo con i vostri interventi, cari ascoltatori. Abbiamo Teresa che ci chiama da Genova. Buonasera, Teresa. Buonasera, dottor Maurizio. Senta, io vorrei sapere chi è il mandante di tutte queste castronerie che sento e che vedo, perché io abito a Genova, sì. Abito nel centro storico, e pensi che praticamente fino a quando l'architetto Piano non si è trasferito al mare, ero inquilina dell'architetto Piano. La cosa, cioè, era inquilina dell'architetto Piano? No, inquilina, ero di rimpettaia, no? Cioè, di abitava di fronte alla sua casa? Esatto, quindi sì. Sono proprio i classici piccoli, ma piccoli belli, cioè. Dunque, io avevo e ho tuttora la corda, la classica corda da stendere, quella che si da un palazzo all'altro, sa quei palazzi, quei vicoli di Genova che da un palazzo all'altro c'è la carrucola? Pensi che gli stranieri, ma non è una frottola, cioè certamente il bucato non dà sulla strada, non dà su Vico Casana, non dà in Piazza della Commenda, però dà praticamente da una casa, da un palazzo all'altro. Allora, gli stranieri, mi creda, si fermavano, perché io un giorno vedo che fotografano la mia per fare le foto stesso. Ecco, e subito non capivo perché. Poi, siccome sono curiosa, mi ricordo che scesi e chiesi perché di tutte. Perché, sì. Siccome per loro è una novità vedere questi panni, ecco, ora salta fuori che non si può più fare. Ma io vorrei veramente indire un divieto per i mandanti di tutte queste cose. Un divieto di vietare. Senta, però intanto, Teresa, ci conferma. Ma tappiamoci la bocca. Ecco, però ci conferma, Teresa, scusi, ci conferma che in effetti c'è questa ordinanza. Sì. Cioè, pare di sì, perché è arrivata già una tipo una circolare, una qualcosa del genere, però è una cosa veramente, mi creda, assurda. Ora, io capisco se si trattasse, ma questo già da anni, cioè, e di non tendere i panni in strada perché non fa un bel vedere, ma la carrucola, cioè, è proprio una cosa tipica, mi creda, io vorrei proprio, cioè, glielo assicuro, non riuscivo a capire il perché, anzi, era anche una cosa buffa, perché dicevo, ma perché fotografano i miei calzini, le mie mutande, scusi il termine, ecco. Cioè, poi, diventava quasi un'attrazione turistica. Certo, senta, però mi scusi, esatto, Teresa, ma ha incuriosito con questa cosa, Teresa, mi scusi, mi ha incuriosito, ci ha incuriosito con questa cosa che lei abita davanti alla casa di Renzo Piano? Sì, dove abitava Renzo Piano? Dove abitava? Fa 15. Sì, proprio Piazza Vico Casana, se lei guarda. Ah, quindi adesso non c'è più, non ci abita più. No, adesso Renzo Piano abita a Vesima, sì. Di fronte al mare, sempre Genova, però come si dice, vabbè, Vesima, Arenzano, quei posti lì. Proprio sopra il mare aveva comprato come sono qui, proprio una volta, aspetti, del demanio. Dove passavano adesso mi sfugge il nome, oh madonna, i passaggi livelli del treno. Sì, vabbè, insomma, un pezzo di terra, un pezzo particolare, sì. Comunque sempre. Vabbè, però, no, era solo curiosità per sapere dove si trova lei, se è un posto particolare della città. Vico Casana, Piazza della Commenda, proprio il centro, il bel centro. Ma adesso lei che fa? Li stende ancora i panni o no? Ha paura di questo ordine? Li stendo ancora, sì, certo che sì. Quindi se ne frega dell'ordinanza del sindaco. Ora, vabbè, insomma, un'ordinanza, è arrivata una cosa così, però certamente, veramente sembrava più una cosa buffa, così tanto un avvertimento. Però va bene, Teresa. Va bene. Grazie. Quindi veramente è una cosa, tappiamo la bocca ai mandanti di tutte queste castronerie, veramente. Lo so, del resto ognuno ha la sua, voi a Genova avete la vostra. Grazie, buona serata. Carlo, grazie. Dalla provincia di Sondrio. No, è caduto. Abbiamo Andrea da Monza, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Mi sente? Sì. Ascolti, la chiamavo perché sono rimasto molto deluso ieri dalla sua conduzione durante l'intervista col senatore Giarrusso. Perché l'ho sempre apprezzata come una persona equilibrata, però ieri ma ha fatto perdere le staffe Giarrusso, perché non rispondeva alle domande, si ricorda? Io facevo le domande e lui parlava per conto suo. Sì, d'accordo, però posso dire una cosa che ho notato, che sa, secondo me le staffe le ha perse il Movimento 5 Stelle in questo momento. No, guardi, perché però l'opposizione è andata a vuoto e c'è un po' di frustrazione. Però io volevo fare un punto diverso, sì. Non mi interessa 5 stelle non 5 stelle, sono un cittadino che manifesta il suo disappunto in questo stato di cose, soprattutto nei confronti dell'informazione, perché adesso si sta discutendo su una riforma costituzionale che riguarda tutte le persone italiane, perché avrà degli effetti da qui in poi che nel momento in cui dovesse essere approvata ricadranno su tutti i nostri diritti. Io, a prescindere dalla faziosità politica o meno, ritengo che questa riforma qua sia una riforma pericolosa, non perché in sé per sé possa sembrare liberticida, ma in un certo qual modo, se qualcuno dovesse utilizzare questa riforma per fini suoi propri di potere, di gestione del potere, lo potrebbe fare, perché non avrebbe i giusti contrappesi per evitare che questa persona, un Mussolini di turno, diciamo così, possa arrivare a questo. Sì, bisogna vincere allora, le elezioni però, Andrea, di questi pesi e contrappesi, che sono giustissimi, a volte sono cose da costituzionalisti, a volte sono cose difficili anche da valutare tecnicamente, però è giusto, lo capiamo tutti che ci vogliono, però bisogna vincere le elezioni, non è che il primo che arriva all'elezione pegli al 10% e cosa fa? Fa la dittatura, non è proprio così, insomma. Poi, naturalmente, questo non per dire che la riforma del Senato è la migliore che si potesse fare, o che va bene così, non lo so nemmeno io se va bene così. Per esempio, sulla questione dell'immunità ho qualche dubbio, perché se si declassa il Senato a un ruolo diverso, allora forse si poteva togliere l'immunità, tanto per dirne una. Però dicevo, Hitler in Germania è andato su con un voto democratico, ricordiamocelo. Questo e a quindi dire che questo cosa, però, esatto, a dire che cosa? Che se una persona con questa riforma qua vince le elezioni, per carità, sull'onda populista, tutto quello che si vuole, e decide di nominarsi il Presidente della Repubblica, di avere la maggioranza nella Camera a quel punto, e di nominarsi, perché non li eleggiamo noi, ma vengono nominati i rappresentanti del Senato, a un certo punto ha tutti i poteri in mano per decidere e condurre quello che vuole. Per di più adesso, al momento, secondo quello che erano le ultime osservazioni, la legge elettorale sarebbe fatta ancora con dei nominati e non con degli eletti, sì. E quindi questo farebbe sì che una persona che si stabilisce il suo entourage di Göring e quant'altro, Himmler e così via, nel suo staff dirigenziale del potere, per 5 anni formalmente, democraticamente, sarebbe andato al potere e potrebbe modificare la Costituzione come cavolo gli pare, in maniera dittatoriale. Io pongo il problema sul fatto che l'informazione, non dico che non sia giusto discutere e votare questa legge, se poi la maggioranza del Parlamento vota ed elegge questa legge va bene, ma il problema è che l'informazione dovrebbe sensibilizzare i cittadini di fronte al pericolo di quello che sta succedendo. Invece quello che posso riscontrare è che l'informazione non sta facendo questo senso critico, ma costruttivo. Non ma guarda, l'informazione, come dice lei, non esiste. C'è un appello promosso dal Fatto Quotidiano con diverse firme contro questa legge qua, contro questa riforma del Senato, è informazione anche quella. Ogni giornalista, ogni testata fa il suo lavoro con la sua testa, non lo so quello che dice lei, se c'è questo blocco dell'informazione che non mette, mi sembra che se ne parli, insomma, dei rischi. La cronaca dell'opposizione che è stata fatta a questa legge, a questa riforma di legge, mi scusi, è stata fatta, non è che i giornali non sono pieni di questo, o no? Cosa che mi ha fatto spavento è che su 6.000 emendamenti che sono stati votati, è possibile che ne abbiano votato uno solo col voto segreto a favore. Ma mi scusi, mi risponda un attimo su questo, visto che ci ha tirato in ballo sull'informazione. È vero o no che i giornali hanno fatto la cronaca di quello che dell'opposizione? Cronaca, è stato detto o no? Cosa vorrebbe dai giornali? Io voglio di più. Vorrei che il giornale non fosse, perché è vero quello che dice lei, il giornale fa la cronaca fredda di quello che succede, però non pone mai un problema di giudizio in merito di quello che sta succedendo. Come le ho detto prima, io vorrei che un giornalista che ha il potere, attraverso un costituzionalista e un'intervista, attraverso anche degli ma guardi che li ha letti male i giornali, Andrea, perché dentro i giornali ogni giorno ci sono pareri a favore, contro, su tutte le cose, compreso sulla riforma, su questa riforma qua, dubbi ne sono stati espressi, ci sono i dissidenti che sono stati intervistati, i Chiti e tutti qua, i Minzolini sono stati intervistati 1000 volte, perché dice che non c'è stata informazione su questo? C'è stata informazione, poi cosa dobbiamo fare più di questo? Non lo so. Ieri sera abbiamo fatto parlare Giarrusso del Movimento 5 Stelle, l'ho incalzato un po' perché non rispondeva alle domande e ci siamo salutati male, pazienza. Quello mi è un po' dispiaciuto, perché era positivo, perché per una volta si è sentito una voce fuori dal coro, insomma. Va bene, grazie Andrea, grazie per averci chiamato, buona serata. Andiamo con Francesca, che ci chiama da Milano. Sì, buonasera. Io in realtà volevo intervenire per quanto riguarda i divieti. Sì. Le dico qual è la mia idea di divieto. Quello di viaggiare in terza corsia di sorpasso anche quando non si sta sorpassando. È una prassi molto comune, io viaggio spesso per lavoro e mi trovo sempre con queste macchine fisse in terza corsia che in realtà non stanno sorpassando, ma hanno una velocità di crociera e creano problemi, gorghi. Quindi per me deve esserci un divieto effettivo. La terza corsia o quarta che sia è legata al sorpasso. Finito il sorpasso ci si mette a destra e si occupa la prima corsia libera sulla destra. Cosa che non avviene mai. Vabbè, Francesca, questo è il mio divieto. Anche lei ha toccato un tasto, perché insomma questo dell'autostrada e delle... E del comportamento degli automobilisti, la sua percezione è questa. Va bene, entra anche lei nel gioco. Oggi chiediamo divieti liberi per tutti, ognuno esprima il suo, visto che a questo punto lo riepiloghiamo, anzi lo riepiloghiamo dopo la borsa. Facciamo la borsa 800 24 00 24. Si può fare, si può fare l'attualità anche d'estate. L'abbiamo raggiunto, Vittorio Sgarbi, buonasera. Eccolo, c'è stato un attimo di suspense perché non riuscivamo a stabilire il contatto telefonico. Sempre impegnato in qualche località, in qualche festival, invitatissimo tutta l'estate. Dove si trova adesso? Andando a Civitella del Tronto per presentare il mio libro Il punto di vista del cavallo, un libro su Caravaggio, e poi vado a Tortoretto per una mostra che non so esattamente quali artisti presupponga, in una chiesa di questa bella città dove c'è il capolavoro di Mattia Preti a Tortoretto. Allora, domani sono lì intorno, perché a Fabriano abbiamo inaugurato la mostra da Giotto a Gentile, che è una mostra che sarà utile per tornare a vedere la bella città di Fabriano, con tutti gli artisti che con Giotto e da Giotto sono stati attivi in questa città, nelle chiese, poi nel museo ci sono le opere d'arte raccolte, affreschi staccati, dipinti di Gentile Fabriano, una mostra da non perdere, quindi alzate il culo e andateci, insomma. Va bene, io sono qua a lavorare, però magari nel weekend, chi lo sa, gli ascoltatori. Fabriano. Vittorio Sgarbi, fresco da poco tempo di nomina, esattamente ambasciatore delle belle arti per Expo, è questo? Sì, questa è la situazione che ha stabilito Maroni e che evidentemente indica la parola belle arti qualcosa che fino ad oggi all'Expo è sfuggita, pensando che Milano non sia una città d'Italia ma una città in un deserto, perché è evidente che chi viene a Milano non soltanto dovrebbe sapere che è la seconda città, forse la prima città economica italiana, ma anche che è la quarta città per monumenti e bellezze, dalla Pinacoteca di Brera alle chiese di Bramante al Cenacolo di Leonardo, dopo Venezia, Firenze, Roma, certamente mia. Quindi però sembra che i turisti invece stranieri lo sappiano, perché nelle classifiche del turismo Milano è in alto, quindi forse lo sanno meglio gli stranieri degli italiani. Però una cosa, perché inizialmente si era detto, forse hanno scritto male i giornali, ambasciatore della Lombardia per Expo, invece è per questo settore in particolare. Sì, in realtà è che la nomina, vedendo dal Presidente della Regione, fa riferimento alla Regione Lombardia, ma in realtà vuol dire occuparsi in particolare a Milano. La contrapposizione che ho in mente di fare 10 padiglioni delle bellezze di Milano, dal Cenacolo fino al Tiepolo di Palazzo Clerici, a tutti sconosciuto, e i padiglioni di questi deficienti di architetti che hanno già cominciato a fare con l'Expo Gate, due orripilanti tralicci immondi. Tutti qua intorno, Sgarbi, fanno sì con la testa, anch'io sto facendo, perché l'abbiamo pensato tutti passando lì davanti. Ora, per chi non è stato a Milano, non conosce Milano o non è venuto in vista di Expo, non sa, sono questi gabbioni di brutti, anche devo dire, insomma. Vabbè. Sì, ma che poi, se lo dico io non conta, se lo dice Sgarbi forse un po' di più. No, non solo, ma io l'ho detto con più forza di altri, ma capolo che sono protesto. Ora, se tu vuoi pensare che Milano sia coinvolta nell'Expo come il luogo dove avviene, dovrai utilizzare il palazzo, il castello come Expo Gate, basta chiamare Greenway o qualcuno che illumini le due torri d'entrata. Eravamo a posto, del mondo. Non c'era bisogno di fare quelle strutture. Senta, però, su questa cosa delle nomine, perché oggi ho letto meglio e ci sono allora anche Gimondi per lo sport, D'Averio per la cultura, Cracco per il cibo e Gaetana Iacono per il vino. Sembra, ma anche qui però, tutte queste nomine, la lottizzazione degli argomenti, delle nomine, cioè un posticino a ognuno, anche se lei ha detto non c'è stipendio per questo incarico. Ma queste, io lo stipendio è zero, tanto che questo mi è stato utile per aggredire come meritava quell'incompetente di Celant che ha dal 2013, in realtà finge che sia due anni che se ne occupa, per spiegare la cifra di 750.000 euro, che era una mostra di argomenti che non conosce, perché di lui si conosce soltanto la competenza sull'arte povera e l'arte assolutamente contemporanea, mentre dovrebbe fare una cosa su momenti di cui non si è mai occupato, non ha mai scritto un libro o una riga. Quindi la gratuità sì, da parte della, come dire, indicazione simbolica che per Gimondi o per Iacona, forse anche per D'Averio, visto che ti hanno dato questa strana delega alla cultura. Infatti, non si capisce perché cultura, D'Averio, belle arti, Sgarbi, non bastava uno forse. No? Quando io sono stato chiamato, D'Averio non era stato evocato, io avevo suggerito una figura femminile che potesse essere una scrittrice, o poi non è stato seguito questo consiglio e mi hanno però nominato consigliere di Palazzo Bagatti Valsecchi, che è una sede meravigliosa, totalmente inagita, ma io ho già progettato una serie di stazioni in luoghi di Milano dove ci siano opere d'arte, quindi la mia sarà una funzione operativa rispetto alla proposta della città, e quindi Palazzo Bagatti Valsecchi, il Pol di Pezzoli, il Palazzo Clerici, Palazzo Dugliani, che ci consentano di vedere quello che la città offre. Sì, proprio la, in altri casi Cracco sì, potrà fare, non so, qualche, farà qualche frittura. No, farà quello che deve fare. Vabbè, farà quello che deve fare, non lo so, parlerà dell'offerta del cibo di questa regione. Sì, ma essendo il cibo il tema di tutto il sì, anche questo è vero, sì. L'Expo, che faccio fatica a immaginare, si potrà inventare delle cose che in Lombardia passano a riferimento a un richiamo. Più bei ristoranti, più buoni ristoranti d'Italia sono in Lombardia, come sappiamo, a partire dall'ambasciata di Romano a Quistello, e quindi probabilmente il simbolo di un ambasciatore può significare qualcosa che ha a che fare proprio col territorio lombardo. Senta Sgarbi, sul discorso dei bronzi di Riace abbiamo già dato, insomma, se ne è parlato molto. Una domanda però è questa: ma gliel'avete mai, cioè gliel'ha mai chiesto alla sovrintendenza di Reggio Calabria di averli, oppure è stata solo una proposta? Sono 30 anni, cioè 20 anni dopo la prima uscita che vengono chiesti. Era molto attivo su questo versante il direttore della valorizzazione Mario Resca, che fu nominato da Bondi, sì, il quale sperì ogni tentativo. Io stesso, quando ero sottosegretario, per portarli ad Atene in cambio della Auriga di Delfi, ma era sempre un muro di gomma di sovrintendenti che difendevano con le unghie evidenti questa specie di pertinenza a Reggio Calabria, come se fossero di Reggio, sono del mondo, e soprattutto nessuna autorità regionale o comunale ha alcun potere su dei beni che sono dello Stato. Perché lei, lei ha detto che invece non l'ha avuta questa richiesta, comunque poi si sa che è contrario. L'ha avuta per l'Expo, per l'Expo è stata pensata, ma perché la prima risposta che dicono, prima ancora che faccia la domanda, No. Cominciano a dire, e lo dice non il sovrintendente, che pure lo dice anche lui, o il ministro, che è l'unico che Renzi dovrebbe decidere e potrebbe decidere, lo dice il presidente della provincia, il sindaco, che adesso tra l'altro non c'è, che ha sotto il comune per mafia, il presidente della regione, che sono totalmente incompetenti. Cioè, se io devo prestare il Cristo morto di Mantegna, io sovrintendente di Brera lo presto, non è che negozio con Pisapia o con Maroni. Solo in Calabria, dove l'atteggiamento dell'Andrangheta pervade anche le autorità locali, si vuole avere titolarità per una cosa che non ti appartiene. È tipico dell'Andrangheta, cioè io voglio avere il mio potere su una cosa che è di un altro, come se io potessi decidere chi invitate voi a Radio 24, ma che cazzo c'entra? Se è possibile che non capiscano che non c'entrano niente, che Renzi non poteva dire si presti o non si presti la primavera di Botticelli, gli dipendeva da Antonio Natali e dalla sovrintendente del polo museale Cristina Cidini, da mi sembra una cosa totalmente inaudita l'idea di sentire questi che continuano a parlare. Lei però la sovrintendente ha detto che lei è contraria, quindi diciamo noi abbiamo intervistato, ha tagliato la testa al toro da questo punto di vista. È contraria perché non sa quello che dice, comunque mi fa travestire da donna per farli ballare, è incapace di guardarli avendoli davanti, si figuri cosa può capire del trasferimento inventando che sono fragili. In realtà lei è sottoposto gerarchicamente al ministro che può decidere domani mattina. E se il ministro si alza, partono, come capitò con l'annunciazione di Leonardo, che il direttore degli Uffizi, e che infatti è andato in America tranquillamente. Senta, noi in queste sere ci siamo scaldati un po' anche per un'altra questione, sa, estate, quindi magari diciamo la temperatura sale anche con poco, per la questione dei tavolini a Piazza Navona. Allora io e anche un po' gli ascoltatori ci siamo detti, ma è possibile che per questa cosa del decoro non si può più fare niente in Italia, compreso mangiare all'aperto a Piazza Navona? Cioè, saranno forse stati troppi, magari ci si poteva pensare prima. A parte il fatto che poi sia il TAR a dover decidere, questa è un'altra assurdità, credo, italiana, ma lo sgarbi, diciamo, critico d'arte, perché qualcuno ha detto ce n'erano troppi. Pronto? È caduta la linea. Su una Piazza Navona sgarbi non ha resistito all'attrazione di andarsene, evidentemente. C'è? No, è caduto. È caduta. Allora, vediamo se lo recuperiamo. Se no, pazienza, abbiamo quasi finito. Poi c'era anche una domanda su Schettino. Andiamo con Patrizio, che ci chiama da Modena. Intanto, buonasera. Buonasera. Niente, io ieri ho sentito il senatore Giarrusso, come si chiama, dovrebbe essere così. E a volte non riesco a capacitarmi della situazione italiana, nel senso tutti tirano fuori dei principi, delle teorie eccetera, e poi dopo per raggiungere la perfezione non si riesce mai ad avere un'azione concreta. Io sono abituato nei cantieri eccetera, alla fine le cose bisogna farle, bisogna prendere delle decisioni, non sono mai perfette, ma la perfezione non esiste, quindi non riesco a capire tutte queste discussioni. Va bene, Patrizio, mi faccia però finire un attimo l'intervista con Sgarbi, forse in una zona dove il telefono prende o non prende. L'abbiamo recuperato, c'è? Eccolo qua. Sì, stavamo dicendo che insomma per questa storia del decoro è possibile che non si può più fare un tubo, fare niente, non si può mangiare all'aperto, forse ce ne saranno troppi di tavolini. Lei che ne pensa? Penso che è un'idiozia assoluta limitare la presenza di strutture mobili in una piazza, a partire da una fiera o dalle tende che montano per Natale, ai tavolini di un ristorante che alla sera si ritirano. Le città sono belle di notte quando tutto è pulito, ma di giorno se lo vuol fermarsi, capita a Piazza San Marco a Venezia, nei vari Florian e Quadri, i tavolini sono ovunque, quindi certo. Si tratta di prescrivere una forma di tavolino che non sia troppo pubblicitaria di caffè o gelati, ma abbia invece un po' di decoro. A stare all'aperto in una piazza è la cosa per cui la piazza esiste, esatto. Per cui queste misure delle sovrintendenze sono spesso basate sul gusto, cattivo gusto dei singoli sovrintendenti che hanno una visione proibitiva che è quella che Renzi combatte dei sovrintendenti, ma in realtà oggi dovrebbe rendersi conto che lui è passato dall'altra parte, come il mio libro sul cavallo di Caravaggio di San Paolo. Lui oggi è da parte dello Stato e quindi delle sovrintendenze, non è più il sindaco che deve discutere con le sovrintendenze qualcosa che sarebbe utile e che le sovrintendenze proibiscono. Quindi della fattispecie dei bronzi di Riace avrebbe oggi tutta l'autorità di dire questi sono beni dello Stato che rappresentano l'Italia, che rappresentano anche la Calabria e che è possibile esporre all'Expo perché tutto il mondo può vederli, cosa che non capiterebbe stando a Reggio Calabria, per cui è proprio il potere dello Stato che si esprime, ma i sovrintendenti esprimono un potere personale gabbandolo per potere dello Stato. Quindi cioè, a questo punto Sgarbi dice se Renzi volesse davvero cambiare verso anche su questo potrebbe intervenire lui direttamente e proporre di fare questa cosa, se ci crede, dei bronzi di Riace a Milano per Expo o anche di altre cose che riguardano dello Stato, sono beni dello Stato, non di Reggio Calabria. Però adesso non ci riporti sui bronzi di Riace, se no poi non la finiamo più. No, lo dico perché di cui stiamo parlando è il conflitto fra sovrintendente certo, e sindaco, anche nel caso di Roma. Ecco, credo. E invece per quanto riguarda, perché la notizia che oggi tutti vorrebbero commentare, tutti stanno commentando sui social network, è quella di Schettino, cioè questo invito dell'università un po' ridimensionato. Che ne pensa? Io ho pensato che fosse uno scherzo alle agenzie. Dico adesso uno ha fatto una battuta, Poi invece ho visto, prima sono stato a fare un'intervista a Sky TG24, che era vero che un professore, un burlone forse o un coglione forse, ha pensato di far parlare di sé, o ha pensato che questo disperato personaggio, nella situazione del panico, avesse assunto quell'atteggiamento talmente di indifferenza alla morte. Esatto, l'ho detto anch'io, serafico. Serafico, che dice forse è la persona più adatta a spiegare come resistere al panico, non forse che ci sono stati morti, per cui certo, quando lui risponde a quello che gli dice cazzo ritorni sulla barca, è evidentemente uno che se n'è andato, altro che il capitano è l'ultimo ad andarsene, perché voleva appunto mostrare la sua superiorità rispetto alla situazione di panico. Però chi sia questo professore andrebbe Uno psichiatra, uno psichiatra e un criminologo dell'Università della Sapienza, io non lo so. Allora io non ho capito se l'hanno cacciato o sospeso. L'hanno deferito per il momento, solo deferito. Deferito, sì, che ho letto anch'io, non so cosa vuol dire deferito. In effetti è vero, un'altra di quelle gabole italiane. Parola, deferito vuol dire affanculo, oppure cacciato. Se è deferito vuol dire che ti fanno un richiamo. La parola deferito che io ho letto sembrava un altro aspetto della burla. Sì. Per la verità, visto che fa lo psichiatra, forse la sua proposta non era sbagliata, nel senso che era sbagliato dare una cattedra a Schettino, sì, ma interrogarlo in un ruolo, come dire, di consulente, tra virgolette, davanti agli studenti, poteva essere un modo perché gli studenti fossero attenti a una questione che però, dico, sono delle lucubrazioni sulla totale inopportunità del fatto, altro che come caso clinico, quindi tu prendi quindi metterla sotto un altro punto di vista, viene chiamato per capire che cosa lo facesse essere così serafico nel momento della tragedia, ma lo psichiatra questo ovviamente può fare, ma dal punto di vista di un atteggiamento non di sentirsi fare la lezione da Schettino, è quello probabilmente che ha giustamente indignato il rettore. Certo, di sentire, di studiare il caso, semmai non di farselo, di farselo raccontare da lui. Ecco appunto, credo che questo. Grazie Vittorio Sgarbi, buona estate. Poi, a Fabriano. Magari anche a Favignana, dove ho fatto una mostra in Sicilia. 100 anni di artisti siciliani, bellissima, sì, da Pirandello a Trombadori, a Guttuso, a Messina, che merita di essere vista, e che chi va sull'isola verso le 7 di sera, quando la giornata è finita, spero che non manchi di andare a vedere, trovandosi in un posto dove, in questo luogo meraviglioso che è lo stabilimento Florio, si è realizzata questa mostra in spazi perfetti e perfettamente restaurati da una efficace sovrintendenza che qualche volta può anche portare a termine delle opere memorabili. Quindi, momento proloco di Sgarbi, va bene, Favignana. Grazie. Fabriano, tutti a Fabriano. Tutti a Fabriano, va bene. Ciao, buona estate, arrivederci. Arrivederci, grazie. Buona serata. Traffico. Salutiamo Franco Fiumara del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, buonasera. Buonasera a voi. Le è piaciuto il riferimento all'andamento lento, parlando di treni italiani? No, non so. Affatto. Vabbè, uno scherzo, stia la battuta. Fiumara, no, noi l'abbiamo convocata perché in realtà c'è una buona notizia, almeno così ci è parso. State studiando intanto una app per prenotare il servizio facchinaggio nelle stazioni, non so esattamente se solo a Roma o anche altrove, in modo che non si crei più quel casotto che è successo per esempio a Firenze con i finti facchini che salivano sul treno e fregavano i soldi e anche le valigie a volte. Stiamo lavorando su, vorremmo affiancarla alla nuova app di Pronto Treno. Ovviamente al di là dell'app è la parte più facile da fare, la parte più complessa è organizzare un servizio che deve potersi reggere in piedi economicamente e che debba essere interessante nei confronti dei clienti. Ma quanto ci manca perché sia pronta? Ma guardi, io nel momento in cui ci incomincia a lavorare preferisco non dare, ma dire che cercheremo di essere molto più veloci di andamento lento. Per una volta. Una cosa che è nata appunto a Roma, sull'onda anche dei disagi che ci sono stati in queste settimane, è un'estate nella quale si parla di questo boom di furti, aggressioni nelle stazioni italiane, sono in arrivo anche le transenne per non andare sui binari, solo chi ha il biglietto. Sì, allora, non c'è nessun boom di furti e aggressioni, anzi, io me ne occupo da molti anni, sì. Erano molti di più negli anni. Perché oggi ci sono due giornali, Libero, e adesso non ricordo se il Corriere anche, che fanno una pagina citando alcuni dati, eccetera, eccetera. Insomma, lei dice che non c'è un aumento. No, io se devo stare ai dati, sì, fonte Ministero dell'Interno, c'è, noi abbiamo in media negli ultimi due anni meno di 10.000 eventi sia su treni che sulle stazioni. Trasportiamo 600 milioni di passeggeri e le nostre stazioni sono frequentate da molte più persone. Il rapporto percentuale è basso, bassissimo direi. Ma anche un solo furto per noi è preoccupante, perché anche un solo furto un cliente si rovina la vacanza. Vabbè, certo, questo sì. Ma queste transenne che sono state annunciate stanno arrivando? Sulle transenne, quelle artigianali, chiamiamole così, sono già in funzione nella stazione di Firenze e hanno dato buoni risultati. Le avevamo già provate. Come funzionano? Cioè, all'inizio del binario che cosa c'è? C'è un filtro che è diretto a assistere i clienti nella fase dell'interrozzamento, una sorta di prima accoglienza, e a verificare che siano in regola con quanto previsto dal regolamento di polizia ferroviaria e dalle regole per accedere al treno. Ma fisicamente ci sono delle barriere? Che cosa c'è? Ci sono al momento delle transenne, come quello che vengono spesso usate per delimitare delle aree, sì, e del personale di Ferrovie dello Stato, personale dell'assistenza alla clientela e di protezione aziendale, che aiutano i clienti. I ragazzi nostri li accompagnano anche al treno portando le valigie. Ecco, ma questo è un punto. Se io voglio aiutare la mamma o la nonna a portare la valigia sul treno e non ho il biglietto, posso passare o no? Guardi, questo lo andremo a definire, però sicuramente potrà passare. Definiremo le regole, ma sicuramente potrà passare. Il nostro principale obiettivo è dare una mano e ordinare i flussi nella stazione senza andare a incidere, anzi, vorremmo migliorare le condizioni di vita in stazione di tutte le persone che si avvicinano per stare in stazione, prendere un treno o andare a comprare qualcosa. Ovviamente il filtro che può servire a evitarsi gli evasori del biglietto, gli abusivi, i malintenzionati, sì, non può e non deve finire per essere un ostacolo alla vita quotidiana di tutti, insomma. Ecco, ma questa cosa qua, diciamo, delle barriere all'ingresso dei binari, stanno arrivando anche, si è letto, a Roma e anche in altre grandi stazioni, è così? Sì, pensiamo di applicarle sulle grandi stazioni di testa, dove è più agevole farle. Sì. Poi vedremo anche per eventuali possibilità sulle stazioni passanti. Ovviamente facciamo e dobbiamo fare i conti con i flussi di stazione, che sono notevolmente più forti rispetto al passato per le persone che le frequentano, i piani di emergenza e anche i vincoli posti dal fatto che diverse nostre stazioni sono anche monumenti nazionali. Vabbè, insomma, quindi questa cosa ci sarà, ecco, e vedremo, insomma, staremo a vedere. Non ci vuol dire neanche in quali città state studiando questa cosa? Stiamo studiando su Roma, Firenze e Milano. Okay. Già domani, ad esempio, abbiamo un incontro previsto su Roma con i vigili del fuoco presso, sì, la prefettura, per valutare l'impatto sui piani di emergenza e di evacuazione e eventualmente modificare i piani o l'idea di progettuale, perché è fondamentale comunque mantenere la possibilità di salvaguardare le persone in ogni condizione. Va bene, grazie, buona estate anche a lei, Franco Fiumara, del gruppo Ferrovie dello Stato. Questa, insomma, la notizia: in arrivo le transenne in alcune città, in alcune grandi stazioni italiane, per evitare il caos, quello che è successo a Firenze, dove c'erano anche sono stati beccati anche diversi rom che facevano pratica del finto facchinaggio. E poi c'è anche in arrivo una app per prenotare. Questa ci sembra una cosa che ci porti, così, come dire, come si sogna sempre, si spera sempre, al livello delle grandi città europee. Facciamo un sospiro. Avevamo Patrizio da Modena, l'avevamo interrotto. Sì. C'è stato Sgarbi, poi la pubblicità, le ferrovie. Vuole concludere? Sì, certo, io non capisco perché si voglia sempre fare delle leggi o delle cose perfette. Le cose perfette non funzionano, sono utopie. Quindi non capisco perché non si possa fare solo con la Camera le leggi, cioè tutt'al più si faranno solo quelle diciamo amministrative, poi dopo per dichiarare guerra o cosa ci vuole la maggioranza proporzionale, ma a me andrebbe bene anche che il partito, l'associazione di maggioranza relativa ha la maggioranza assoluta per fare le leggi. E poi quello che non funziona lo sappiamo, perché quando guardiamo persona per persona sono tutti onesti, ma quello che non funziona qua è lo Stato, è la giustizia. Allora nel suo complesso 40 anni che non funzionano, ci saranno pure dei colpevoli. Va bene, Patrizio, grazie. Sì. Buona serata anche a lei. Andiamo con Samuele che ci chiama da Milano. Pronto? Eccolo, tocca a lei. Sì, buonasera. Senta, io non volevo parlare di Schettino, non capisco tutto questo stracciarsi le vesti per questa persona che tutto sommato oggi come oggi è ancora incensurata, perché poi ci sarà un processo e il processo lo vedremo. Sicuramente una persona inquietante, però vabbè, una persona incensurata che ha parlato in pubblico per una mezz'ora in un paese dove un pregiudicato sta riscrivendo la Costituzione. Ah, ancora con Berlusconi. Però mi scusi Samuele, ma non è questione solo di... Cioè non è che c'è solo la giustizia, Samuele. Non è che c'è solo la giustizia. Non è che finché non è stato condannato... Cioè sarebbe come invitare... Il problema è per cosa è stato invitato a parlare, ha capito? L'ha detto anche Sgarbi. Se fosse stato studiato come caso limite di qualche cosa psichiatrico, va bene, ma invitato a parlare in un seminario per la gestione del panico, uno che ha fatto, se verrà condannato, comunque ha fatto l'inchino, sono morte 32 persone, è come invitare, non lo so, Pannella a un seminario su come smettere di fumare, uno che fuma 60 sigari al giorno, di cosa si parla? Questo è il punto. Vuoi sentire la mia opinione o va avanti lei? No, vado avanti io, perché allora, posso dire anch'io quello che penso. Però se farà 7 secondi. Ma lei l'ha detta la sua opinione, l'ha detta. No, e io ho detto una cosa anch'io, adesso dica lei quello che vuole dire. Cosa vuole dire? Lo dica. Certo, perché è inutile che diciamo sempre le stesse cose. Sì, sono le stesse cose perché non cambiano col tempo. Un pregiudicato, infatti, sarà pregiudicato finché campa. Però questo argomento signore, non c'entra nulla con Schettino. Non c'entra niente, sono due personaggi inquietanti, uno più inquietante di quell'altro. Indovini chi è? No, non lo perché so, non lo dica lei. Uno comunque uno è incensurato per il momento, la verità processuale. Io dico solo questo, Samuele, mi scusi, perché se parliamo di Schettino lei mi tira fuori Berlusconi? Perché? Ma perché in Italia non è un paese normale, perché in Inghilterra, lei mi dica se in Inghilterra un pregiudicato riscrive la Costituzione, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Olanda, nel paese civile dove vuole lei, quei paesi a cui noi ambiamo di assomigliare. Lei mi dica se e poi ci meravigliamo che uno Schettino inquietante, sono d'accordo con lei, è inquietante, ma in un paese dove succedono cose molto più inquietanti. Allora, non stupiamoci più di nulla. Devo fermarmi per il giornale radio. Grazie Samuele, giornale radio, torniamo subito dopo. Voglio avere gli occhi di Paul Newman, le labbra Rocky Horror, i capelli Lenny Kravitz, i muscoli di Batman, la voce di Sinatra, i soldi di Zidane, Ferrari nel garage. Voglio andare alle feste di Briatore, beccare le terine, lasciare le veline, voglio essere come più di Dio, non l'ho deciso io, non l'hai deciso tu, l'ha detto la TV. Voglio la mia foto su Novella, 2000 su Eva 3000, voglio un'intervista, stare in bella vista, fare il conduttore, il governatore, forse il retore, non l'imperatore. Voglio andare al Grande Fratello, serata in discoteca, la mia foto nella teca, voglio essere come più di Buddha, niente più sfuga, non l'hai deciso tu, l'ha detto la TV. Sì, sì, sì, no, no, no, questo sì e questo no. E come ogni estate ci sono i divieti dei sindaci, le ordinanze più strane. Allora abbiamo parlato anche con Sgarbi poco fa, che era contrario, ha detto una fesseria, il divieto di tavolini a Piazza Navona a Roma. In realtà più che di un divieto si tratta di una limitazione. Apprendiamo dai giornali di oggi che c'è scatta il Consiglio Comunale a Napoli il divieto di pernacchia, più o meno letterale, in un ordine di servizio del 25 giugno che riguarda i dipendenti del Consiglio Comunale napoletano. Ma insomma, per dire, ci sono, non so, a Venezia divieto di fare castelli di sabbia e buche in spiaggia, a Sorrento gli artisti di strada non possono sostare nello stesso punto più di 15 minuti, oppure a Genova abbiamo parlato anche con un'ascoltatrice, c'è il divieto di esporre il bucato nel centro storico della città. I turisti che stavano facendo le foto hanno visto ritirare i panni, hanno detto: ma come, perché era così bello, era così pittoresco? 800 24 00 24, cari amici ascoltatori, chiamateci, visto che a questo punto il divieto è libero per tutti. Diteci cosa vorreste vietare voi a questo punto, il vostro divieto del cuore, cosa proprio voleste non vedere più davanti a voi. Per esempio, abbiamo fatto prima degli esempi, non so, io dico: non mi venite a parlare la mattina prima che abbia bevuto il caffè, oppure che ne so, cantare ai concerti, mi dicono, perché io pago per andare a sentire il cantante ma non il pubblico. Certo, anche questo è possibile. Poi i divieti richiesti, come quello di cui si parla in queste ore per il raduno degli scout al parco di San Rossore in provincia di Pisa. C'è un appello di 400 intellettuali, credo che siano 400 intellettuali, tra loro l'ex presidente La Normale, ma anche Settis, Fulco Pratesi, forse lo sentiremo più avanti. Non ci sono più gli intellettuali di una volta, però è contro questo raduno di scout. Ma che male faranno gli scout dentro il parco di San Rossore? Non lo so. 800 24 00 24. Oh, vabbè, insomma, la notizia di oggi è quella di Schettino. Gli ascoltatori ci dicono: no, ma guardate, è una bufala, non ha tenuto una lexio magistralis. Infatti io non ho detto lexio magistralis, perché è stato chiarito, è stato un intervento di Schettino all'Università La Sapienza. Il responsabile di questa cosa qua è il professor Mastronardi, che è stato deferito per questo invito di Schettino ad un convegno, insomma ad un seminario in cui si parlava tra psichiatri e criminologi della gestione del panico. E questo è il signor Mastronardi, che si è giustificato così: mi hanno meno tirato in ballo praticamente, non ho potuto non scrivere il fatto che ci sarebbe stato un commento di Schettino. Allora, a questo punto, venendolo a sapere, mi è giunta voce quindi dei vari avvocati di Schettino, che per par condicio, sapendo che facevamo queste ricostruzioni anche in 3D, perché era proprio dalla scena del criminal profiling il tema di ciò che stavamo effettuando, no? E a questo punto mi hanno pregato, dice, per par condicio a un intervento breve. Lo Schettino non può non esserci. La par condicio nei convegni scientifici, non si era mai sentito che in un convegno dove si parla di un argomento bisogna portare le due tesi, a favore e contro. Non so, si potrebbero fare esempi straordinari: uno che parla, non so, contro una cosa scientifica oggettiva, contro la luce del sole, viene a parlare del buio, non lo so, è una cosa assurda. Forse potevano invitare De Falco, il comandante De Falco, a questo seminario sulla gestione del panico nelle emergenze. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima di guai. Vada a bordo, cazzo. Riforma della giustizia, se ne è ricominciato a parlare. Il ministro Orlando sta mettendo a punto delle linee guida, si parla di una responsabilità civile dei giudici, una cosa che entusiasma Forza Italia. Sentiamo allora il ministro e poi Michela Biancofiore. Io non credo che sia stato un uso politico della giustizia, do una risposta diversa. Credo che ci sia stata talvolta una... siano stati appiccicati ai processi delle aspettative di carattere politico. Penso che in questo senso ci siano anche dei limiti della mia parte politica, perché penso che quando in qualche modo rinuncia a un'idea di trasformazione della società, in qualche modo assegna ad altri soggetti questo ruolo. Sicuramente mi soddisfa il fatto che ci sia una parziale, insomma, come dire, è solo parziale per il momento, insomma, responsabilità civile dei magistrati, e che se c'è del chirurgo non si capisce perché non ci debba essere a maggior ragione, sì, dei magistrati, che c'è una parte, una sensibilità verso la separazione delle carriere, ma sono solo punte enucleate, quindi ancora, no? C'è l'intercettazione, sì, una stretta sull'intercettazione, abbiamo assistito a cose francamente ridicole per quanto riguarda la vita privata delle persone e via discorrendo. Ma questo non si può. Oh, in questo scorcio d'agosto c'è anche da segnalare che Gasparri, insomma, pezzo a 90 di Forza Italia, credo sia vicepresidente del Senato, sì, ha presieduto anche delle sedute in questi giorni al posto di Grasso, ha preso di mira il ministro Madia. Un ministro del genere, faccio un appello alla famiglia Madia, che è una famiglia importante, ritiratela dalla circolazione, non si può fare, cioè un minimo al di sotto del quale non si può scendere, quindi vede che non voglio appoggiare il governo, familiari della Madia, richiamatela a casa, non può fare il ministro. Senza fare love non si può stare. Oh baby. Beach on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, gli occhi neri e gli occhi blu. Quante signorine very nice fanno uscire pazzo tutti i boys. Ma state qua, you know, per farci innamorare ad ogni età, you know, frenare un poco e poi lasciarsi andare, you know, in fondo sai che quando torni back alla città tutto finirà, mannaggia. Il nostro inviato sotto l'ombrellone di questa sera è il sindaco di Vieste, Ersilia Nobile, buonasera. Buonasera. Buonasera, come va Vieste? C'è bel tempo? No, un bel tempo proprio no, no, però niente, un'estate che non solo non vuole arrivare, ma insomma non ci tormenta. Comunque nel nostro paese, a differenza, diciamo, sì, di tutto il resto d'Italia, insomma, non si sente che è ugualmente diverso dagli altri anni, però ci sono anche le giornate. Le belle giornate non mancano, insomma, si può andare al mare. Le belle giornate non mancano, sì, sì, si va ugualmente al mare perché piove, poi esce il sole, quindi i lidi sono ugualmente. La stagione turistica è abbastanza movimentata, voglio dire, anche per la questione della crisi, insomma, oppure veramente. Le dirò, ancora non vengono fatti perché stiamo in, sì, piena stagione, per cui ancora non viene fatto nessun confronto con i flussi turistici dell'anno precedente, però a colpo d'occhio, a vista così, le posso dire che è abbastanza, diciamo, frequentato il nostro paese. Senta, ma veniamo a questa notizia che abbiamo letto sui, sì, giornali. Diventerò famosa per questa notizia. Insomma, il prefetto di Foggia, però su richiesta, a quanto abbiamo capito, del comune, il vostro, sì, comune, ha autorizzato ad abbattere gli animali che circolano, bovini, ovini, credo cavalli, non so se c'è proprio delle diciture precise, perché, sì, c'è un fenomeno di animali abbandonati. Che succede a Vieste? Allora, da diversi anni, ma da tanto tanto tempo, c'è una diffusa, proprio un fenomeno diffuso di questi animali vaganti, per cui da parte della città di Vieste e quindi da parte della nostra cittadinanza era necessario e non procrastinabile adottare e sviluppare ogni iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione dei proprietari degli animali. Ma di che animali stiamo parlando? Non cani e gatti, quelli soliti che girano per strada. No, noi parliamo, guardi, per quanto riguarda, sì, i cani e gatti, credo che noi posso perché dirlo, il fenomeno del randagismo c'è. Sì, ecco, l'avete eliminato. No, noi abbiamo vinto il premio nazionale Beatrice per la solidarietà. Che premio è? È un premio che contempla la solidarietà degli animali nei confronti delle persone, perché non solo abbiamo abbattuto il randagismo nel nostro, sì, paese, ma i nostri animali sono stati impiegati, vengono impiegati nella cura, nella pet therapy. Ah, per cui hanno nella cura di alcune malattie. Cioè. Però alcune adesso malattie. Gli animalisti se la sono presa per questa cosa, perché dicono che volete ammazzare i cavalli. Guardi, forse non hanno letto bene l'ordinanza, perché l'ordinanza è seguita da linee guida per l'esecuzione delle procedure concernenti l'abbattimento degli animali vaganti nel territorio del comune di Vieste. Allora, l'ordinanza praticamente è stata emanata dal prefetto dopo ripetuti incontri, dopo ripetuti tavoli tecnici fatti con tutte le altre istituzioni e con la presenza della ASL. Ma quindi queste linee guida cosa stabiliscono? Che si possono abbattere ma solo in determinati casi? Allora, non so, ci dica lei. Allora, si possono abbattere limitatamente al caso in cui gli stessi dovessero creare una situazione di pericolo concreto per l'incolumità delle persone e per la sicurezza della circolazione stradale. Ma chi li può abbattere? È anche il singolo cittadino? Un cacciatore? Il cittadino no, neanche. Lo può abbattere le forze dell'ordine, il corpo forestale e la polizia provinciale. Dopo però che hanno valutato anche l'impossibilità adottare qualunque altra misura, atti dissuasivi per l'allontanamento del pericolo, si cerca di convincere il bovino, la vacca o la mucca di tornarsene al pascolo. Allora voglio far notare che questa ordinanza serve a dimostrare che lo Stato c'è. L'ordinanza è contro il degrado, però quello che non si riusciva a capire è come mai ci sono tutti questi animali abbandonati che girano dalle parti di Vieste, tanto da creare un allarme di questo Vieste tipo. Il territorio di Vieste, ma come tutto il territorio del Gargano, è anche ricco di masserie, di allevamenti, per cui noi prima di procedere all'ordinanza, sono diversi anni, abbiamo cercato di mettere in evidenza e quindi di fare prevenzione, emanando anche una delibera di giunta nella quale noi dicevamo che alla terza multa che l'allevatore prendeva non aveva più diritto per 3 anni consecutivi alla fida pascolo. A che cosa? Fida pascolo, cioè loro ottengono dal comune dei territori dove devono stare gli allevamenti. Allora è questo forse il problema, mi scusi, perché se questi territori evidentemente non sono recintati. Ma li dovrebbero recintare loro, perché loro hanno la fida pascolo, ogni anno viene rinnovata. E voi alla terza volta? È perché le prime due sono di preavviso, alla terza volta. Ho capito, però così siete troppo forse permissivi. Ci sono tutti questi animali in giro. Prima di abbatterli gli animali, forse è meglio. No, guardi, gli animali sicuramente non saranno abbattuti perché non si arriverà ad abbattere. No, fino ad ora nessuno è stato abbattuto. Bravo, nessuno è stato abbattuto. No, una domanda, glielo domando. Questo diciamolo per mettere il cuore in pace. Fino ad ora nessuno è stato abbattuto, ma io glielo ho già detto. Anche perché è un reato, no? C'è un reato, dicono, del codice penale. Sì, guardi che comunque l'ordinanza è stata emessa dal prefetto secondo ai sensi dell'articolo 2 del testo unico degli enti locali, per cui non è contro gli animali, Non lo so, il testo unico non lo conosco. Va bene, amici degli animali di Vieste, mi raccomando, cercate di convincere queste vacche, questi cavalli a tornare indietro, perché non sia mai che parlare anche Vieste, anche il paese Animal Friend, cioè Animal Friend, cioè i lidi che sono aperti accettano anche gli animali, sono circa 20. Animal lidi. Friend voleva dire, Animal sì, Friend. Animal Friend, sì. Non si era capito. Si è sentito bene, sì. Vabbè, ma in che senso Animal Friend, mi scusi, siete? Se c'è un'ordinanza per abbatterli questi animal, non è che siete molto friend. Guardi, non è che si abbattono i cani e i gatti, Vabbè. Intanto, scusi, ma nell'ordinanza si parla di qualche animale in particolare o tutti? No, nell'ordinanza si parla di animali da allevamento, quindi... C'è scritto questo, animali d'allevamento, va bene. Animali vaganti concretamente pericolosi per la pubblica e privata incolumità, quindi in genere gli animali che si incontrano sulle strade sono le mucche, i cavalli e le mandrie di pecore e di capre. Ma che probabilità c'è andando in giro per Vieste di incontrare una mucca? Guardi, non è che lei le incontra a Vieste non incontra queste, le incontra nei sulle paraggi. Strade provinciali e statali che insomma, permettono di arrivare a Vieste, quindi non... Nei paraggi, va bene, nei paraggi. Staremo a vedere, grazie intanto e buona estate anche a lei, al sindaco grazie, di Vieste. Grazie, pure a lei, arrivederci. Arrivederci. Animal Friend. Borsa. 800 24 00 24, andiamo con Antonio che ci chiama da Verbania. Buonasera. Buonasera, mi sentite? Forte e chiaro, Antonio, prego. Benissimo. No, niente, si parlava, cogliendo l'occasione per cui si è parlato anche dei bronzi di Riace. Sì. A me piacerebbe che si vietasse di esporre sul lungomare di Reggio Calabria, città che ospita i bronzi di Riace. Sì. C'è stata una riqualificazione recente del lungomare di Reggio Calabria, c'è stato di recente. A un certo punto, di fronte a un monumento ai caduti, c'è il busto del senatore Ciccio Franco. Del senatore? Il senatore, non so se vi ricordate questo personaggio. Io mi ricordavo l'attore Ciccio Franco. No, quello è Franco Ciccio. Era Franco Ciccio e uno era Franco Franchi. Bravo, hai ragione. Beh, no, adesso ero caduto nell'errore. Ciccio Franco, il senatore, c'è un busto del senatore Ciccio Franco e questa cosa lei non va giù. No, vabbè, questo senatore, poi c'è la scritta sotto grande leader del movimento Boia chi molla, non so se vi ricordate o se sapete, se qualcuno si ricorda dei fatti di Reggio Calabria, parliamo del 1970, quando ci fu quella specie di rivolta per cui questo leader, chiamiamolo così, c'era stata una rivolta per decidere quale dovesse essere il capoluogo della regione, se Catanzaro o Reggio Calabria, ma la città fu messa a ferro e fuoco, insomma, da questa gente. Insomma, lei vorrebbe togliere questo busto? Ma sarebbe, dato che questo viene definito, probabilmente è stato autoproclamato il chilometro più bello d'Italia, questo nuovo lungomare di Reggio Calabria. Sì. Oppure, ma è molto grande questo busto, oppure è un piccolo busto che ricorda un fatto storico avvenuto a Reggio tanti anni fa? Ma in realtà non ricorda nessun fatto storico, ricorda questo personaggio avviso. Questo l'abbiamo capito, ma è grande questo busto? No, allora non ha un impatto, Va bene, però nonostante questo lei vorrebbe toglierlo, sì, nel diciamo chilometro più bello d'Italia. Va bene, grazie Antonio. Ritmo, mi raccomando. Grazie Antonio, andiamo avanti con qualche altro ascoltatore. Domenico dalla provincia di Sassari. Domenico, ci sente? Se può abbassare la radio. Pronto? Sì, abbassi la radio, ci ascolta il telefono, grazie. Eccolo, spento. Sì. Buonasera, lei mi sente? Sì. Andiamo Pronto? Avanti così per molto. Sì, io la sento. Lei mi sente? Pronto? No, lei non mi sente, quindi arrivederci Domenico. Proviamo più tardi. Fabio da Gorizia, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Allora, volevo riportare così, guardo ai divieti, nelle simpatiche tabelle che apparivano nei locali di Budapest o comunque degli stati che facevano parte del blocco sovietico prima del crollo del muro di Berlino, dove si ritrovava scritto vietato ballare sui tavoli, vietato ridere, sì. E pertanto mi sembrava doveroso, insomma, un timido contributo. Mi piacerebbe vietare, ecco. Non ho capito, vietare, ah, e lei la mette così sul drastico, va bene, grazie Fabio. Qualcosa ogni tanto si deve anche vietare, il problema è quando si vieta tutto troppo. Alessandro da Roma. Buonasera a tutti. Io in realtà avrei due divieti. Il primo, vorrei vietare alcune definizioni. Questa cosa mi è venuta veramente in mente questa mattina. Ho sentito la definizione di recessione tecnica. Ma che vuol dire? Sì. Cioè, ma che vuol dire? Guardi, lo dice la parola stessa, recessione in senso tecnico. Due trimestri di fila, credo, con PIL negativo. Sì. Ma certo, ma se io vengo licenziato durante la recessione tecnica, non è che sto meglio, oppure non è che mi licenziano tecnicamente. Ma chi dice questo? Chi dice che starebbe meglio, che sarebbe No, appunto. Cioè, o è recessione o non è recessione. Cioè, lei dice che questo aggettivo tecnico viene applicato per edulcorare una realtà, recessione, sì. Punto e basta. Sì, punto, basta. Stiamo parlando di recessione, punto. Stiamo distruggendo ricchezza. Ok, quindi non è recessione tecnica, è recessione, punto. E poi io vorrei... Però mi scusi, adesso faccio il preciso. La recessione è uno stato, diciamo, dell'economia, no? L'economia che non va bene, l'economia in recessione. Recessione tecnica per gli economisti, diciamo, quelli da statistica, è quando ci sono due trimestri di fila di calo del PIL. Mi scusi la precisazione, ma è questo. No, ma io lo so, ma perché non la possiamo semplicemente chiamare recessione? Perché? Sono sei mesi che distruggiamo ricchezza. Perché distinguiamo dalla recessione come concetto più generale, però non sono riuscito a spiegarglielo. Va bene, forse ha ragione lei, Alessandro, grazie. Forse ha ragione lei, anzi sicuramente. Giuliano dalla provincia di Lucca, buonasera. No, Giuliano è distratto. Sì, pronto Giuliano? Sì, eccolo. Sì, senta, no, volevo intervenire riguardo a quella demente del sindaco di Vieste. Ah, proprio così, cioè, sì. Ma si uccidono gli animali, cioè, perché lei ha mai sentito una mucca che aggredisce qualcuno, un cavallo che aggredisce delle persone o delle pecore che aggrediscono? Ma insomma, dico, ma a che livello siamo arrivati? Cioè, questo sindaco analfabeta che non sa neanche parlare in inglese, non sa dire neanche friendly, cioè, ma io rimango sbalordito, ma che paese siamo diventati? Oddio, c'è da dire che non hanno abbattuto ancora niente, no, e che capito, nessuno. Uno che fa un però, sì, così, però... Guarda, uno che fa un annuncio così, oltretutto si giustifica dicendo no, ma noi siamo friend. Ma dico, ma che paese è? Beh, certo, per essere friend, se c'è un'ordinanza che prevede di abbattere gli animali, se non erano amici, cosa facevano? No, li mettevano a rogo. Lei mi capisce, ma, sì. ma insomma, che senso ha, insomma, no? Cioè, di solito una mucca, qui è scappata una mucca in Toscana tempo fa, perché non voleva andare al mattatoio, l'ho letto sui giornali, cioè la popolazione è insorta per difenderla, no? Cioè, ma che stiamo diventando che stiamo? Ma stiamo scherzando? Cioè, ecco, io vorrei che qualcuno veramente si esecrasse il fatto che ci sono dei sindaci che ragionano così, insomma, no? Sa, a volte piccole città, piccoli paesi, Vieste credo che sia una cittadina, non so, oddio, piccolissima, piccolissima, non è, piccolissima. No, voglio dire, a volte il sindaco, lei dice, non sapeva parlare inglese, magari in piccole realtà può darsi anche che non ci sia ampia scelta per sindaci migliori, però Vieste non è così piccola, Vieste non è così piccola. Per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro. Va bene, grazie Giuliano. Abbia pazienza, sì. No? Cioè, voglio dire, è sempre un sindaco, no? Sì. La terza media penso che l'abbia fatta, no? Mi auguro. Ma io non voglio entrare in questa logica qua, per l'amor del cielo, se no giustamente si fa del razzismo stupido. Però voglio dire, abbia pazienza, sono animali, ma che hanno fatto di male? Cioè, ma io, ecco, rimango sbalordito di come veramente ci stiamo... Beh, in effetti, se si trattasse di una pantera sfuggita dal circo, però se parliamo di cavalli e mucche non si capisce bene questo allarme. Non lo so, bisognerebbe forse trovarsi nella situazione di Vieste. Staremo a vedere. Grazie, Giuliano. Domenico da Sassari, forse l'abbiamo recuperato? Sì. Eccolo. Eccomi, pronto. Pronti? Pronto. Allora, il mio argomento non è quello delle mucche in mezzo alla strada, perché qui in Sardegna succede, no? Sull'orientale sardo soprattutto. Cosa succede? Cosa succede? No, di trovare mucche anche di notte, capre, maiali, pecore, eccetera. Però non è vero che non si muore. Qui l'anno scorso una signora ha investito una mucca, è morta, l'ha investita con l'auto. Ma non perché le è andata addosso di notte, forse se l'è trovata davanti, sì, all'improvviso? Sì. Certo, di notte. No, ma che gli animali in giro possano essere un problema, questo è sì, infatti sicuramente il punto è il problema poi è cercare di evitarlo. Perché per esempio succede in Sardegna che ci sono animali al pascolo? Ci sono molti pascoli senza recinti. Sì, forse addirittura mucche abbandonate che non sono talmente vecchie che non danno più latte e sono abbandonate, io credo, perché sono vecchie e magrissime, tipo quelle che si trovano in India. E poi comunque... le recensioni ci sono, ma non sono sempre, tante volte vengono superate. Va bene, però lei ha detto che non voleva chiamare per questo, ma per qualcos'altro. Ecco, infatti io volevo entrare in merito alla questione sempre della Costa Concordia, che a quanto pare è di nuovo di attualità. Ecco, allora tutto il mio problema non esiste se questa nave stava passando rispettando i limiti, no? I limiti di distanza del codice di navigazione. A quanto pare no. No, non so, forse lei ne sa più di me. Sì, no, ma sì, allora, sì, sì, ammesso, prego, prego. Ammesso che questa nave abitualmente per fare l'inchino all'isola e per passare per la pubblicità, ovviamente. Io però non vorrei riaprire la questione della Concordia un'altra volta, no, no, no, no, no, ma io voglio dire, ma sì. Allora, se ammesso che sia così, io credo che sia così, che avevano chiuso gli occhi, tutti quanti avevano chiuso gli occhi, no, a cominciare dal comandante della Capitaneria di Porto, no? Quello che sbraitava, il comandante Di Falco, che sbraitava contro Schedini. Ma lui dov'era quando questa nave altre volte, l'anno prima, eccetera, passava così vicino all'isola e poteva trovarsi anche la barchetta di un pescatore di calamari che in quel momento non aveva più, aveva la batteria scarica, non aveva luci e il radar non vede una barchetta piccolissima. E quindi perché non viene chiamato in causa? Perché lui nessuno l'ha chiamato in causa come sì. responsabile? Visto che ci sono stati 30 morti, ma poteva essere una strage ancora più grave. Va bene, grazie Domenico. Però ripeto, non è che adesso, dopo che Schettino è stato chiamato a parlare all'Università della Sapienza, si riapre la questione su cosa è successo, su chi sono le responsabilità. C'è un processo e va bene, staremo a vedere. Adesso vi portiamo da un'altra parte, vi portiamo al raduno scout di San Rossore a Pisa. Ritroviamo il presidente onorario del WWF, Fulco Pratesi, buonasera. Buonasera a voi. Ci eravamo sentiti qualche giorno fa e non ci aveva detto nulla che aveva firmato questo appello contro il raduno scout nel parco di San Rossore a Pisa, forse perché non l'aveva ancora firmato. No, per primi. Oddio, non lo sentiamo più, Fulco, eccolo. Dannosa per una area protetta come un parco. Sì, è partito. Un parco importante. Perché diamo la notizia. Allora, per quello abbiamo messo tra l'altro la canzone dei Beatles, che all'epoca fu la canzone simbolo del raduno di Woodstock. Ora, nel parco di San Rossore, in provincia di Pisa, un'area protetta, si sta svolgendo un raduno niente po' di meno che degli scout. Un raduno storico, perché credo siano anni che non si trovavano tutti insieme, quasi 30.000 persone. C'è un appello... Più di 30.000 persone. Quante sono? Più di 32.000, credo. 32. C'è un appello di, credo, 400 intellettuali, ha firmato Salvatore Setis, Prosperi, l'ex direttore che doveva normale, ha firmato anche Fulco Pratesi, per protestare contro questo raduno. Perché? Perché è un raduno inaccettabile in un'area protetta così delicata come un'area costiera come il parco Migliarino San Rossore. Non so come gli è venuto in testa gli organizzatori di fare una cosa simile. C'era un'alternativa, ho saputo che era sulle Alpi, in una bellissima zona, diciamo, erbosa, portare invece in un posto già così pieno di persone e di interessi naturalistici, è stata una cosa inaccettabile. Ma ci sono delle specie protette, cosa c'è dentro il parco San Rossore? È un parco naturale, non è nazionale, ma insomma come se lo fosse, e con cui per ottenere questo abbiamo combattuto per anni e anni e anni. Adesso un'invasione di più di 30.000 persone in una zona come questa, diventata oltretutto costiera, ci è sembrato eccessivo, ma non solamente a me, a centinaia di persone che hanno firmato questo appello. Però non, ora gli scout, tra l'altro, perché fosse... Ecco. Sì, fosse un raduno, diciamo, fosse un concerto rock, uno si potrebbe pensare, ma gli scout hanno la fama di essere bravi ragazzi, puliranno tutto. Io, come no, sono stato scout anch'io, non si preoccupi, sono scout anch'io, ho seguito sempre l'opera, abbiamo collaborato spessissimo con gli scout come WWF, per cui non c'è nessun problema. Il problema è, secondo me, l'incapacità di gente di osteggiare questo numero di persone altissimo all'interno di un'area protetta. Questo diventa un precedente pericolosissimo. Ma scusi, ma un parco a cosa dovrebbe servire? Non può servire anche a ospitare cose così? Il parco deve servire a salvare la natura principalmente, poi il resto può anche essere, ma sempre non deve confliggere questo con le principali richieste della natura. Quindi il parco non serve per andarci, ma serve per salvaguardare la natura. Ma con certi criteri, non ci va in 32.000, amico mio. sono troppi. Noi abbiamo scomodato uno dei 32.000 radunanti degli scout, che è anche un nostro collega, Marco Lombardo di Radio 24. Marco, ciao, buonasera. Marco? No, non l'abbiamo scomodato, in realtà sta facendo i comodi suoi perché non lo sentiamo. Marco Lombardo, c'è un problema sulla linea. Volevamo sentire un po' l'autodifesa degli scout. Senta, Fulco Pratesi, però io capisco, ma non so, abbiamo parlato un po' dell'estate dei divieti. Non è che in generale forse c'è un eccesso di divieti e questo non si può fare, quest'altro non si può fare. Ora, magari, poi può darsi che nel merito abbiate ragione voi, non lo so. Magari fosse così. Lei sa che purtroppo si fa tutto in questo paese, si fa tutto, anche nelle... Però sa cosa pensa? Esatto, è questo che pensano i cittadini. Si fa il condono sotto le case nel Vesuvio a Napoli, però poi non si possono mettere i tavolini a Piazza Navona per fare la cena e non si può stare dentro il Parco San Rossore, che sembrerebbero cose. Senta, quello che succede in città mi interessa meno. Quello che interessa è quello della conservazione della natura, questi pochi ettari di natura che ancora possiamo conservare e che sta purtroppo essendo colpita da un numero enorme di utenti, e questo che noi vogliamo conservare, almeno per noi, per i nostri successori, un pezzo di natura italica che purtroppo stanno scomparendo dappertutto, tanto più sulle coste, in montagna. Io andai all'ultimo riunione degli scout a Piano di Pezza in Abruzzo, e la cosa, anche se fu abbastanza impattante, poi fu accettabile. Questo no, è molto più di allora, per il doppio di quelle. Sì, senta, fra l'altro non so se a peggiorare addirittura le cose, credo che l'organizzazione degli scout abbia promesso di regalare al parco 4 dromedari, che non si sa se è una cosa importante oppure oltre al danno si aggiunge la beffa. No, a parte gli scherzi, ce l'abbiamo Marco Lombardo adesso? Sì. Ciao Marco, eccolo. Buonasera a tutti. Intanto un piacere sentirti, è il nostro collega Marco Lombardo. Scattano gli applausi in redazione, ci fa piacere sapere che sei in vacanza e che ti diverti a raduno. Senti, ma che intenzioni avete? Hai sentito Fulco Pratesi? Cioè, sono preoccupati soprattutto per la salvaguardia della natura. Io vi ho difeso dicendo gli scout aiutano gli anziani, i bambini a attraversare la strada, sicuramente non faranno dei danni, però... Certo, naturalmente faremo del nostro meglio, che è anche uno dei motti degli scout, diciamo. Io sono appunto non assolutamente tra gli organizzatori, sono un capo semplicemente che porta qua i suoi ragazzi. Sì. E non, naturalmente un evento con 32.000 persone sarà impattante e non si può negare che ci sarà una presenza importante per tanti giorni di tante persone. Sicuramente spero e conto sul fatto che tutti gli scout italiani, che sono tanti, siano sensibili al tema della natura, che è uno dei temi su cui noi sensibilizziamo i nostri ragazzi fin da quando sono bambini, ecco. Sì. Quindi per quanto sarà possibile, naturalmente faremo di tutto per lasciare il posto al meglio di quanto è nelle nostre possibilità, ecco. Ma dove vi hanno sistemato? Perché lì nel parco di San Rossore dovrebbero esserci anche un po' di animali, non so, cinghiali, cerbiatti, cose del genere, anche specie protette. Voi dove siete? Allora, noi siamo assolutamente schierati lungo una via, una lunga via che è lunga penso più di 4-5 chilometri. Sì. E ai due lati ci sono due ampi spazi, due ampi prati, quindi prima della pineta, e ci sono 5 quartieri di tende che sono appunto stati collocati lungo i lati di questa. Quindi di siete questa lungo la strada, ai lati, non siete nel mezzo al bosco o cose di questo non genere? Non siamo nel bosco, non siamo, quindi, non siamo nel bosco. Quindi stiano tranquilli, secondo me, anche gli intellettuali che hanno firmato l'appello, perché insomma, benché siate tanti, siete stati, diciamo, disposti un po' in una zona dove non dovrebbe esserci. Ma questi 4 dromedari, è vero che regalerete i dromedari al parco? La c'è girata, l'ho sentita anch'io, non so dirti nulla di più. Chissà poi perché, ma se ne parla. Chissà poi perché dei dromedari, chissà. Sapevo che in passato erano presenti dei dromedari nel parco, e che poi non so per quale motivo non ci sono più stati, e quindi per questo la GSC avrebbe promesso di insomma regalare questi animali in forma di compensazione per la presenza di questi giorni. Però ripeto, sì, per quanto mi riguarda una cosa che si racconta, ma non ho non una si voce sa. Marco, certa, ma... che ci vorrebbe la GSC nazionale, che insomma sì, no sua. Vabbè, ma non importa. Senti, ma cosa fate, il fuoco, quelle cose lì stasera? Attenzione, perché se parte un fuoco poi succede un casino. Mi sembra sembra interessante raccontare che noi abbiamo delle indicazioni molto stringenti, sì, sulla l'impossibilità di accendere fuochi, sull'impossibilità di lavarci con saponi che ci portiamo da casa, okay, ma solo con saponi biodegradabili, che sono distribuiti bio, che venivano venduti precedentemente, quindi su questo ci sarà sicuramente attenzione. Il fumo sarà assolutamente contenuto in apposite aree, per chi anche tra gli scout ci sono sente bisogno di fumare, e quindi insomma tutte queste sono accortezze che ci sono state comunicate in modo molto stringente. Va bene, un raduno che si preannuncia ecosostenibile, quindi dovrebbe non creare quell'impatto temuto sul parco di San Rossore, quindi niente fuochi stasera. Ma quanto state lì? Allora, noi siamo qua fino a domenica. Domenica sarà l'ultimo giorno, durante il quale poi in mattinata inizierà poi lo sfollamento, diciamo così, chiamiamolo così, di questi gruppi che torneranno piano piano a casa propria. Tu pure tornerai. Nella notte, tra il 10 e l'11, dovrei tornare a Milano. E ci vediamo, credo, in radio, perché mi sa che saremo insieme. Grazie Marco, buon divertimento. Grazie, grazie. Dal raduno scout del Parco di San Rossore a Pisa, naturalmente, insomma, giusto prestare attenzione a specie protette, al parco naturale, però insomma sembra che il rischio che possano succedere cose negative da questo punto di vista sia scongiurato, insomma così ci è sembrato di capire dal collegamento. Intanto Fulco Pratesi se n'era già andato, evidentemente non so, forse è caduta la linea o non aveva voglia di parlare con il nostro amico scout. Allora, 800 24 00 24, riprendiamo con gli ascoltatori e direi che sentiamo Fabrizio che ci chiama da Parma. Buonasera. Sì, buonasera, volevo cogliere questa occasione perché sì, cosa vietare? Io vieterei le automobili parcheggiate in doppia e terza fila davanti ai bar. Perché? Con la scusa di stare dentro 5 minuti, la gente mette la macchina in maniera assolutamente un soprusso per gli altri che devono circolare. Certo, ma non c'è bisogno neanche di spiegarlo perché uno è contrario, perché a doppia fila non si può e basta, e a lei questa cosa giustamente non va giù. Grazie a Fabrizio. Alessandro da Milano, buonasera. Sì, buonasera, aspetti che mi allontano dalla radio così non mi vince anche in radio. Sono sì, contento. Vada, vada. Volevo farvi anch'io il divieto, però mi permette 10 secondi di considerazione sul Senato velocissima. Certo. Stiamo tutti a vedere che cosa succede, va bene opporsi, quello che è tutto. Poi c'è una cosa fondamentale, il referendum, e il popolo decide, i votanti decidono, sì, con il referendum. Quindi facciamo ste riforme, non sono contento neanche di questa riforma, ma facciamole e poi vediamo e decidiamo col referendum. Sennò stiamo troppo dietro le cose, perdiamo terreno, perdiamo tutto. Considerazione sul divieto? Sì. Il mio divieto è quello di impedire ai vacanzieri di ritornare a Milano. Sono di Milano, stiamo in 300. Mettiamo delle grandi barriere fuori da Milano in modo che... gli distruggiamo le case. Come? Sono cattivo, gli distruggiamo le case. Gli distruggiamo le case addirittura. Io potrei essere della sua squadra perché sono anch'io di Milano e ad agosto sto a Milano. Si sta bene ad agosto a Milano, è vero? Con i picconi però, ad agosto si sta bene, ma non lo dica troppo, è meglio che... Ma no, ma guardi, intanto non è che li convince, quelli che sono al mare in Sardegna o anche meglio, non è che si convincono a tornare solo perché noi diciamo che ad agosto si sta bene, stanno al mare e sono contenti, però è vero che ad agosto a Milano parcheggio, se quei pochi ristoranti aperti, non c'è coda, poi che altro? E ci sono tante cose da scoprire comunque, perché l'avete detto prima. Si rivede la città perché ci sono meno macchine, per esempio. Questo è vero ovunque. Sì, ma è la quarta città con opere d'arte e monumenti in Italia, l'ha detto prima Sgarbi. Noi milanesi forse non la conosciamo bene, la nostra Milano, però mi permette una battuta finale. Sì. Io dico così perché... Quando poi ci si trova in agosto, e lei lo sa se l'ha vissuta spesso, le persone sono molto più tranquille, hanno meno quella frenesia che una volta per Milano era un punto d'onore per fare le cose, adesso è diventato troppo perché si è superato il limite della velocità, si va più veloci di quello che si dovrebbe andare. E allora le persone ritornano più ragionevoli, si può chiacchierare, si può discutere, si possono avere anche idee contrapposte. Ammesso che si trovi qualcuno con cui chiacchierare nel condominio, perché anche questo e siamo talmente tranquilli. Sì. Io per il lavoro che faccio lo trovo tutti i giorni e con questo la saluto. Va bene, grazie Alessandro, buona serata. Buon agosto. Buona grazie, sera. Buon agosto anche a lei. Pietro da Firenze. Sì, buonasera. Buonasera. Io chiamavo in merito all'intervento del responsabile di Trenitalia di un po' di tempo fa per raccontare un po' il punto di vista degli utenti sulla stazione di Firenze, perché è un po' diverso da come l'ha raccontato il responsabile. Quest'idea delle transenne che in teoria dovrebbero tenere lontani eventuali mendicanti o ladri ipotetici creano un disagio ben maggiore di quello che creava in realtà il mendicante che chiedeva lo spicciolo. Pietro, mi fa sentire un attimo, la faccio finire, il preambolo di Mentana, titoli della 7, il regionale della 7. Già questa mattina era molto atteso perché era il dato dell'Istat su quella che sarà, su quella che è stata la, quello che è stato l'andamento della nostra economia per il secondo trimestre dell'anno. C'era chi sperava in un più 0,1. Nei primi sei mesi dell'anno il nostro PIL, ancora una volta, anziché crescere, è andato indietro dello 0,3% complessivo. E dopo due trimestri, col segno meno, si entra in recessione tecnica, come si dice. Vuol dire che ovviamente ancora la ripresa, la crescita sono lontane e anzi si rischia una stagnazione pericolosa. Del resto era l'allarme lanciato ancora ieri anche dal leader della Confcommercio. Insomma, è una situazione difficile e Renzi ha dovuto in qualche modo prenderne atto, non c'è bisogno, non si possono fare difese d'ufficio. Certo, ma che cosa invece si può fare e perché non cresciamo? Quello che è certo è che la borsa subito ne ha risentito, Milano è stata. Va bene, questa è Mentana, tra poco sentiremo anche i titoli, magari adesso facciamo una breve pausa, poi torniamo agli ascoltatori. E avevamo Pietro da Firenze che ci stava parlando di delle transenne ai binari, davanti ai binari della stazione della città. Sì, come le dicevo, consideri che la stazione di Firenze ha un totale di 19 binari, praticamente oltre ad essere transennati tutti i binari è un anno e mezzo che sono completamente chiusi al pubblico l'accesso ai sottopassaggi che conducono a quei binari, per cui per arrivare da un binario al binario dall'altra parte della stazione uno deve percorrere tutta la lunghezza del binario, che è tutt'altro che trasferabile, e arrivare dall'altro lato della stazione. Beh, se uno ha una coincidenza questo è una iattura. Esatto. È una cosa assurda completamente, tra l'altro si potrebbe anche ragionare del fatto che il problema mendicanti potrebbe essere affrontato in modo diverso, che transennando tutti gli accessi magari si potrebbe rivolgersi alle categorie, alle associazioni di categorie, alle varie associazioni che tutelano un po' queste. Sì, anche far girare qualche poliziotto in più sui binari. Magari insomma. Anche, esatto, sono d'accordo, o magari all'esterno della stazione per evitare l'ingresso, visto che a ogni binario ci sono due addetti Trenitalia che controllano i biglietti, quindi un totale di 38 addetti Trenitalia a controllare l'ingresso ai binari, è una roba completamente fuori di testa. Per di più hanno sennato per 4/5 tutte le macchinette automatiche che rilasciano i biglietti, per cui ci sono delle code infinite anche alle macchinette automatiche. Tutto questo di fronte magari all'occhio dei visitatori, dei turisti che arrivano in Italia e si ritrovano un panorama che sembra una specie di campo di prigionia, perché sono chiusi su 8 lati, su 9 insomma. Quindi è completamente assurdo per qualche mendicante e qualche furtarello che, come diceva il responsabile stesso, sono pochissimi rispetto alla mole di viaggiatori che viaggiano sui treni. Quindi è una manovra che è decisamente peggiore della malattia che vorrebbe curare. Va bene Pietro, su questo sono abbastanza d'accordo con lei, non conosco la situazione specifica di Firenze, però mi sembra che la sua analisi sia come dire, ragionevole. Altra cosa è l'ipotesi di una applicazione che tramite cellulare, smartphone o quant'altro consentirà di prenotare il servizio facchinaggio, quello ufficiale, per evitare che si creino gli abusivi e tutti quei problemi che erano stati sollevati sia a Firenze che a Roma. Abbiamo i titoli del TG1? Sì, allora sentiamoli. Istat, PIL peggiore del previsto, Italia in recessione, il ministro Padoan, no a manovre aggiuntive, più controllo delle spese. Renzi, serve più coraggio, avanti con decisione, 1000 giorni per invertire la rotta, ma dipende da noi, Grillo, è lui il vero gufo. Legge elettorale Berlusconi dal Premier, apertura su soglie, cautela su preferenze, riforma del Senato, possibile via libera domani. Siria rapite, due volontarie italiane erano ad Aleppo per un progetto umanitario, forse sequestrate da estremisti islamici. Gaza regge la tregua, secondo giorno senza bombe e senza razzi su Israele, al Cairo si tratta per un cessate il fuoco permanente. a lezione da Capitan Schettino. L'ex comandante insegna all'Università di Roma come gestire il panico. Il ministro sconcertante. Dopo un viaggio di 10 anni nel sistema solare, la sonda europea Rosetta entra nell'orbita della cometa 400 milioni di chilometri dalla Terra. È anche un successo dell'Agenzia e dell'Industria Spaziale Italiana. E allora andiamo con Vincenzo che ci chiama da Foggia. Buonasera. No, Vincenzo da Foggia non ci sente. Andiamo con Simonetta che ci chiama da Varese. Allora, eccola, buonasera. Eccola. Buonasera. Buonasera. Senta, io chiamavo perché ho sentito la discussione sul parco di San Rossore. Allora, io vorrei dare la mia testimonianza personale. Noi siamo stati ospiti di una cugina che abita proprio a San Rossore e ci ha portato di recente a fare tutto il giro del parco, che era veramente in uno stato di degrado incredibile. Ora mi chiedo, ma questi intellettuali l'hanno mai veramente visitato il parco? Perché noi ci siamo trovati di fronte a copertoni bruciati, lattine, plastica che vagava tra le onde del mare e le spiagge. Quindi mi chiedo, ma questi scout che vanno, che andranno, parteciperanno a questo convegno, forse faranno solo bene al parco, perché per quanto ne so io, gli scout portano un po' di ordine, un po' hanno sempre aiutato e hanno sempre cercato di mantenere puliti i posti che visitavano. Non so, lei l'ha mai visto il parco di San Rossore personalmente? Io ci sono stato, perché io sono anche di quella zona lì, non ho un ricordo, come dice lei, particolare per quanto riguarda l'incuria, però insomma prendo per buono quello che lei ci ha detto. Assolutamente, sì. Perché abbiamo fatto questo giro anche con una guida che ovviamente... Ma che anno era? Ma era l'anno scorso, quindi... Allora, quindi anche una cosa recente, va bene. Molto recente, sì. Grazie Simonetta. Allora dica agli intellettuali di andare là e ripulire un po' il parco invece di parlare per niente, come al solito in Italia, si parla molto e si fa poco. Va bene, okay? Va bene. Grazie, arrivederci. Sì, sì, sì. Poi anche il fatto, cioè, fa un po' sorridere forse anche, no? Un appello di intellettuali contro un raduno di scout, anche questo si può sottolineare. C'è una notizia, intanto un'ufficialità, Massimo Giannini da Repubblica passa alla RAI, vice direttore di Repubblica, a condurre Ballarò, credo che sia ufficiale. C'è una notizia di pochi minuti fa. Andiamo con Pietro da Rovigo. Buonasera. Buonasera. Prego. Io stamattina alla mezza ascoltavo il giornale radio regionale su Rai 1, sì? Del Veneto. Allora la notizia che è andata è questa: c'era una grossa industria americana che doveva aprire una fabbrica a, mi pare, a Bassano del Grappa, una fabbrica di protesi medicinali, un po' di tutto, 400 posti di lavoro. Per la nostra burocrazia, dopo un bel po' di tempo che stavano facendo non so quali pratiche o cose, si sono rotti i cosiddetti e se ne sono andati in un momento come questo. Va bene, questo, sì sì, la sentiamo. In un momento come questo, sì. Un'industria da 400 posti di lavoro, a un certo momento, io non capisco, anche i funzionari locali o cosa, dovrebbero a un certo momento fregarsene, chiudere anche due occhi sulla burocrazia. Io non so se il ministro sia a conoscenza di sta roba o no, comunque 400 posti di lavoro si sono rotti i coglioni proprio per me e se ne sono andati e andranno ad aprire in un'altra nazione. Va bene, questo Pietro purtroppo è una cronaca che si ripete in Italia, succede, adesso non so a cosa si riferisse esattamente lei con questo servizio del telegiornale del Veneto. Agostino dalla provincia di Cremona, buonasera. Buonasera. Eccolo. Senta, io volevo commentare ancora, magari lei non piacerà tanto, però ancora la notizia sulla capitano della Costa Concordia. Schettino, sì, per dire che a me la cosa che sembra veramente inverosimile in questo paese, tra tutto riferirsi all'ascoltatore che ha chiamato una mezz'oretta fa, è che questo tizio qui sia ancora in giro, voglio dire. Ma sai, è ancora in giro, dove deve andare? Finché non lo mandano in galera è ancora in giro. Appunto, voglio dire, questo qui, scusi, adesso per quel poco che ne so io, cioè lui in giro ci può stare, è l'inopportunità di invitarlo a parlare a una conferenza all'università. È fatto che lui sia ancora in giro, poi dopo quando uno è in giro lo possono anche invitare, insomma. Ma no, ma scusi, lui è in giro perché non è un pregiudicato, non è ancora stato condannato, perché non deve stare in giro? Il problema è ben questo, sì. Scusi, ma uno cosa deve fare per venire condannato? Ma vogliamo parlare del professore dell'università? Diamo a ognuno le sue responsabilità. Schettino è coinvolto in un processo. No, mi faccia finire lei, Agostino. Schettino è coinvolto in un processo, verrà giudicato. La giustizia italiana è lenta, va bene, ci mette troppo tempo. Ok, punto. Dopodiché, nel frattempo è libero, nessuno glielo può impedire. Ma perché io devo invitarlo a fare una docenza, un intervento, a un convegno tra psichiatri e criminologi? Questo è il punto. La responsabilità è del professore che l'ha invitato, non di Schettino che c'è andato. Mi interessa questo qui, scusi, ma di chi è la responsabilità di aver portato la nave su uno scoglio? Insomma, cioè, di chi è la responsabilità? È di Schettino, Agostino, questo è chiaro. Cosa ci vuole? Perché un giudice decreti questa responsabilità, cioè cosa deve fare? Cioè, non so, più flagranza di così, cosa ci deve essere? Non ho capito, cioè, che indagini bisogna fare? Non so, mi dica lei, cosa bisogna fare. C'è un processo, ci sono delle regole del diritto penale da rispettare. Agostino, ho capito, lei lo vorrebbe vedere condannato, e guardi, forse anch'io lo vorrei vedere condannato, però c'è un processo, è giusto che lo faccia, che ci siano gli avvocati difensori, che ne so, questa è la giustizia. Poi che ci voglia troppo tempo, sicuramente ha ragione lei, vale per Schettino ma vale anche per altro. Oh, adesso tiriamo un po' il fiato però, se possibile, perché è il momento del professore Franco Bolelli. Tempo. Professore, io l'altra volta ti avevo voluto chiamare così. Buonasera. Buonasera. I consigli per la lettura, ma insomma anche di più, Franco Bolelli, filosofo, scrittore, autore tra l'altro di, insomma, l'ultimo libro Si fa così, un libro del 2013 credo, sulla nuova realtà, come vogliamo chiamarla, digitale, il mutamento visto dalla parte dell'evoluzione umana, degli esseri umani più ancora che tecnologico. Certo, un libro sui tempi che stiamo vivendo, a partire dalla grande rivoluzione anche dei social network e della comunicazione più in generale. Esatto. L'altra volta, Franco, ci avevi consigliato, ci abbiamo scritto tutto, Don Winslow, scrittore americano, perché hai detto che ti piaceva la sua scrittura intelligente ma eccitante, e avevi parlato del Re del Mondo e le belve, quindi abbiamo preso appunti questa volta. Oggi invece di cosa ci vuoi parlare? Stasera torniamo indietro, facciamo un salto indietro nella storia, facciamo un salto indietro anche nella mia storia. Tengo la suspense sul titolo del libro per 15 secondi. Questo libro mi è capitato tra le mani a 16-17 anni, andavo al liceo, non ci ho capito assolutamente niente, però ho trovato una frase che mi ha spiegato chi ero io. La frase è quella che dice: posso credere solo a quei pensieri che sono una festa anche per i muscoli. Io a 16-17 anni adoravo i libri, volevo scrivere, l'avrei fatto, ma volevo anche diventare il giocatore di basket più grande di tutti i tempi, questo non ci sono riuscito, però mettere assieme le due cose, i pensieri e la festa per i muscoli, per me era assolutamente essenziale, mi ha spiegato la mia vita. Il libro è Così parlò Zarathustra, lui si chiamava Friedrich Nietzsche, il mio indiscusso maestro. Oh là là, beh certo, ma in effetti Nietzsche a quanti anni avevi? 17 anni? Io pure credo nell'età scolastica l'ho affrontato come te senza capirci nulla. Ovviamente, certo. Perché non ci si capisce nulla? Perché è un filosofo, è troppo difficile. No, e questa è la cosa che pensavo anch'io, bisogna non pensarlo, nel senso che Nietzsche ha fatto una filosofia che non è speculativa, non è accademica, non è concettuale, ha fatto una filosofia vitale, una filosofia legata al corpo, ad esempio, quando lui dice c'è più ragione nel tuo corpo che nella tua saggezza, è perché attribuisce al corpo un valore straordinario. Dunque niente di metafisico, al contrario, l'esaltazione delle potenzialità che noi abbiamo. O la sua idea del Dio che danza, per cui di un essere onnipotente, forte, straordinariamente importante, ma nello stesso tempo capace di danzare, capace di leggerezza, capace di muoversi con l'eccitazione per l'appunto. o l'idea stessa della volontà di potenza che è stata fraintesa da tanti, ma che fondamentalmente mira al rafforzamento e alla valorizzazione del proprio carattere, anche con una certa durezza con se stessi. Quindi, e come tutto questo sembra molto vitale, sembra una cosa che leggi al di là del tono roboante di Nietzsche, che reagiva al fatto che vivere nella Germania della fine Ottocento non doveva essere mica molto divertente, per cui reagiva con un tono assolutamente sopra le righe, però un po' di filosofia vitale, un libro che aiuta, un libro che serve. Ma quindi secondo te uno, insomma, è un libro che si può affrontare in qualunque momento, anche d'estate, sì, così, anzi forse d'estate c'è più tempo. Assolutamente sì. Perché questo è un libro impegnativo, diciamo. Bisogna orientarsi, nel senso che bisogna capire quello che ti serve. Probabilmente ci sono 20 pagine di cui non ti importa niente, lo capisci al primo le salti e lascia perdere. Poi però devi andare a cercare quelle robe che pensi che ti possono essere utili. Secondo me ce ne tantissime, proprio per la vita quotidiana di ciascuno. Perché è bello proprio alla valorizzazione del proprio carattere, della propria personalità, dei propri sentimenti, del proprio corpo, delle proprie energie e tutto quanto. Per cui si tratta di qualcosa di assolutamente vitale. Ma fantastico. Ma insomma, io Don Winslow ci proverò sicuramente, non ho mai letto niente. Dice un po' meno. Nietzsche, non lo so. No, Nietzsche ci ho già provato e mi è successa la stessa cosa che è successa a te, così come con altre letture impegnative che a una certa età si fanno perché si sente quasi il bisogno di doverle affrontare, letture istruttive, formative, e poi però appunto alla seconda pagina si rimane così col libro in mano perché, oddio, non ci ho capito nulla. Passare la seconda pagina. Tu dici di andare avanti finché si trova qualcosa di fondamentale. Assolutamente, provarci non fa male. Noi ti chiamiamo proprio per questo, tanto, perché vogliamo questi inviti. È chiaro, sarebbe facile dire leggete l'ultimo libro, che ne so, di Fabio Volo, è facile, quello già lo leggono tutti, già lo fanno. Noi cerchiamo di scavare e trovare qualcosa di più. Io vorrei stuzzicarti anche un secondo su una cosa, perché sapendo l'entusiasmo con quale ci parli dei social network, adesso c'è questa notizia, per esempio, perché tu dici bisogna pagare un prezzo, no, per poterlo usare in maniera intelligente. Oggi c'è la notizia che la foto della figlia di Obama è finita rimbalzando su Twitter, però le figlie del presidente non possono essere fotografate, cioè c'è il tema della privacy. Ma questa cosa della privacy, anche nel senso dei dati personali che Facebook e Twitter hanno di noi, secondo te non è un prezzo che a qualcuno atterrisce questa cosa qua? A me personalmente no, nel senso che credo faccia parte del gioco. Al di là della cosa della figlia di Obama, piccina, lasciamola divertire, oggi con un selfie o con un cellulare salti tutte le vecchie regole, tutte le vecchie leggi, tutti i vecchi divieti, perché non contano più, perché non so, perché quelle regole, quei divieti non sono più all'altezza del cambiamento, sono diventati ridicoli, non stanno più in piedi da soli, per cui è ovvio che bisogna rivedere, reinventare, rimettere a posto e tutto quanto. Sai, la privacy, io credo che da una parte un pericolo reale di controllo ci possa essere, non facciamolo diventare però una cosa complottistica o paranoica, ci blocca. Perché non è così, perché si tratta di un effetto collaterale in fondo, cioè la libertà che ci dà è di gran lunga superiore alla privacy che ci toglie, il che non vuol dire che un buon motivo per non occuparsi della privacy, è sacrosanto occuparsene, però sempre sapendo che l'ordine di grandezza è 85-15, cioè ok. Va bene, va bene, va bene. Grazie anche per questo, Franco Bolelli. Grazie, buona serata. La settimana prossima un libro più leggero, dai. Ecco, sì, così diciamo qualcosa di più accessibile, perché sennò poi la frustrazione è una brutta cosa. Grazie, buona estate, fino a mercoledì prossimo. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao. Traffico. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità anche d'estate. E allora, dopo la chiacchierata con Franco Bolelli, sempre insomma interessante, non banale, sempre da ascoltare, abbiamo ancora un po' di tempo per gli ascoltatori e torniamo a Firenze. Massimiliano, buonasera. Pronto? Pronto, Massimiliano, buonasera. Pronto? Massimiliano, pronto per la terza volta? Eccoci. Sì, buonasera. Sì. Ho telefonato al riguardo, ho sentito prima praticamente la discussione che avete avuto con un delegato del WWF, se non vado errato. Sì, sì. E con praticamente un rappresentante degli scout per il raduno del Parco di San Rossore. Sì. Ecco, allora io sono stato al Parco di San Rossore, diciamo a giugno, perché c'era un'esposizione internazionale canina, quindi ci sono andato, l'ho vissuto, ho visto e mi sono reso conto che praticamente quel parco è in uno stato d'abbandono. E questo qui, questo stato d'abbandono è praticamente, secondo me, dettato proprio dal fatto contrario di quello che praticamente diceva il rappresentante del WWF. Cioè... Sì, Fulco Pratesi, presidente onorario, che insieme ad altri ha firmato un appello contro questo, sì, questo raduno. Sì, allora cioè lei dice che è in stato di abbandono proprio perché non c'è vita nel parco. E quindi, ma che, in che sì, senso, no, mi scusi, allora, abbandono? In che senso abbandono? Cosa ha visto? Allora le spiego. Quel parco era utilizzato anche... Sì, ma non mi spieghi la storia del parco, mi dica cosa ha visto lei, così ci fa... Io ho visto, nelle parti dove ho potuto visitare, sì, nell'ambito di questa esposizione, ho visto uno stato d'abbandono perché non viene appunto utilizzato a livello turistico, quindi... No, però scusi, non esageriamo, però... di mantenimento... Stato di abbandono mi fa pensare, come ha detto l'ascoltatrice prima, Simonetta da Varese, che ci siano, piante non curate, che ci siano erbe non tagliate, che ci siano dei rifiuti, che ci siano delle... non lo so, delle cose dell'incuria, ma che non ci sia dentro il turismo, scusi, nella riserva naturale cosa si aspettava di trovare? Un bar, un ristorante, un cinema? No. A parte che c'è, perché praticamente nell'ambito relativo all'ippodromo c'è anche un ristorante. Sì, no, ma mi dica in che senso era l'abbandono secondo lei? L'abbandono secondo me è dovuto al fatto che, essendo, appunto le stavo dicendo, secondo me potrebbe essere tenuto ancora meglio, sì, ora, se venisse aperto anche ad un pubblico, logicamente selezionato, ambientalista e quant'altro, che ha la possibilità di poterlo visitare. Vabbè, lei piacerebbe di vederlo più aperto. Io sono d'accordo con lei, perché bisogna andarci, insomma, a godere delle riserve naturali, che poi servono anche per la natura, perché si deve rifocillare, riprodurre tutto quello che volete. Però poi conta, credo, anche, no, l'utilizzo che ne fanno le persone di queste cose qua. Io preferisco, mi stanno più a cuore le persone, ecco, sì, della natura e degli animali, questo sì, credo di poterlo dire, senza vergognarmi. Mauro da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, ho sentito prima il rappresentante, credo, di Ferrovie dello Stato o grandi stazioni, per quanto riguarda il problema del passaggio di queste stazioni che non sono controllate. Volevo ricordare che per quanto riguarda Termini, questo caos, questo problema è venuto fuori proprio nel passaggio dalla proprietà delle Ferrovie dello Stato a grandi stazioni, che hanno stravolto la stazione Termini, perché prima i tornelli c'erano. Per chi ha qualche anno, forse il rappresentante di Ferrovie non se lo ricorda, ma per passare dalla galleria di gomma di Termini ai treni c'erano i controllori. Chi non aveva il... Cos'è la galleria di gomma, scusi? La galleria di gomma è quella grande galleria che c'è nella stazione Termini, che collega, che sta all'interno della grande stazione, no? Cioè, dove c'è il passaggio? Dove c'è, sì, il passaggio, però qui adesso le barriere le vogliono mettere non all'ingresso proprio del binario. Certo, ma come erano prima? Sì. Prima c'era il passaggio normalmente all'interno della stazione, poi per andare al binario c'erano i tornelli con le cabine, con i controllori, fino a 10 o 15 anni fa, fino a quando era stata gestita da Ferrovie dello Stato, e c'erano, quindi, come dire, la perplessità del rappresentante di Ferrovie dice adesso studieremo il progetto, e basta ripristinare quello che c'era prima, perché prima era effettivamente controllato, poi la stazione Termini è diventata un grande centro commerciale e la sicurezza, come dire, dei viaggiatori è passata un po' in secondo piano. Volevo ricordare solo questo. Va bene Mauro, dire, grazie. Non sì. è una cosa nuova, ma c'era già da prima. Ok, grazie. Andiamo con Costantino da Caserta. Buonasera. Sì, buonasera. Io volevo dire un paio di cose, se me lo consente. Innanzitutto ringrazio per come conducite la trasmissione. Grazie. Che date serenità a chi interviene di esprimere la propria idea. La prima è mi congratulo col sindaco Marino di Roma per l'ordinanza che ha fatto. Stamattina ho sentito per radio, sempre questa stessa emittente, una imprenditrice di Piazza Navona che si lamentava di aver fatto un investimento per 90 tavoli e non so quante sedie. Sì. Lei si immagina davanti a un bar 90 tavoli e tutte quelle sedie, se in quella piazza ci fossero 3, 4 bar, 5 bar, non so quanti. No, ma ce ne sono tanti, guardi, lei ha presente Piazza Navona, è grande, è molto grande, ci sono tanti ristoranti. 90 tavoli, sì. Ognuno mette 90 tavoli. Però lei se va a Piazza Navona, se andava prima che togliessero alcuni di questi tavoli, non è che si accorgeva, cioè non è che non c'era, non riusciva a passare tra un tavolo all'altro, è talmente grande che nonostante i tavolini c'era i tre quarti di piazza ancora vuoti. Sì, d'accordo, però uno non può ammirare la piazza nella sua bellezza, nella sua, anche nei minimi particolari, perché questi commercianti che credono di essere i padroni del mondo, non so, uno pretende di mettere davanti al proprio esercizio commerciale 90 tavoli, anche se siamo a Roma, mi dica lei se è una cosa corretta. E a me mi sembra di no. La seconda è per il Senato, se me lo sa far dire. Dica, sì. Questo è una grossa fesseria questa abolizione del Senato, perché rimane il segretario generale, rimane tutto l'apparato, e poi non credo che un senatore eletto da un consiglio regionale si porti a Roma a spese proprie, con la propria macchina, oppure non piglia indennità. Si comincia col poco per arrivare poi, fra 10 anni, a deliberare sempre più indennizi, diarie e cose varie per andare a fare questo senatore che non serve a niente. La terza cosa, veloce Costantino, no, 20 secondi. Sì, c'è una nuova materia che potrebbe insegnare. Ecco, come si può diventare vigliacchi oltre maniera? Va bene, grazie Costantino. Io ho detto che forse l'ha detto anche Sgarbi, magari ci aveva sentito mentre facevamo l'introduzione del programma, che sicuramente può insegnare come si fa a fregarsi dei problemi. Questo sì, perché lui se ne stava andando con la sua barchetta mentre la nave affondava. E quindi sì, ecco, di gestione del panico se ne intende, nel senso di gestire il suo di panico e tagliare la corda, che però non ha molto a che fare col ruolo, diciamo, che lui aveva in quel momento come comandante della nave. Nicola da Pisa, buonasera. Buonasera. Buonasera. Senta, io ho sentito tutta questa polemica che è nata relativamente alla ciò che ha fatto Schettino, no? All'invito che ha ricevuto una conferenza. Sì. Secondo me è normale, cioè, chi si meraviglia vuol dire che, cioè, non ragiona, non ha visto bene la situazione, perché uno come Schettino è 2 anni che subisce un processo mediatico a torto e a ragione, premendo, no? Io credo che una persona normale, questa sarebbe o suicidato, sarebbe andata dall'altra parte. Invece lui continua a gestirsi in maniera tutto sommato egregia. Tra l'altro è stato accusato, come è solito, no, è il responsabile di un danno, come se fosse un danno di quel genere lì fosse ascrivibile a una sola persona. E invece a chi è ascrivibile? Invece a chi è ascrivibile? Alla luna storta? No, un concatenarsi di eventi, cioè. Ma questi eventi come si sono concatenati? Cioè, sulla nave c'è un comandante. Una nave c'è un comandante, sì. E poi c'è un equipaggio di diverse persone. Sì. Succede un disastro, sì. Muoiono più di 30 persone, è facile dare la colpa ad uno solo. Va bene, non ho capito, però se secondo lei è colpa di tutto l'equipaggio o non è colpa di nessuno? No, io la colpa la dovrà giudicare e stabilire un giudice, ecco, no? Appunto, allora. Però è molto semplice dare la colpa ad una sola persona, perché a cominciare dall'inchino, no? L'inchino si vede sui radar, sulle tracce delle navi, non è che era la prima volta che si avvicinava all'isola del Giglio. Nessuno è intervenuto. E quindi? Se sono morte 32 persone sulla nave che si è inclinata, sì, vuol dire che le misure di sicurezza su queste navi evidentemente non sono al top. In che senso? Scusi, se uno dirige la nave contro uno scoglio, quali misure di sicurezza dovrebbero intervenire? Quali misure di sicurezza non hanno funzionato? Quando una nave si inclina, sì, le persone muoiono dentro nella stiva perché non riescono ad uscire in mare aperto, sì, potete, quando si inclina una nave, ci devono essere, cioè dobbiamo progettare delle navi che, se facciamo l'inchino e vanno sott'acqua, consentono, no, a tutti di uscire in pochi secondi. Va bene, Nicola, mi sembra un'ottima idea. Per non usare un'altra espressione che potrei usare a questo punto, no, vabbè, cioè è inutile andare avanti, no? Se vogliamo difendere, ma certo, c'è il processo, le responsabilità vanno accertate sicuramente, ma qua parliamo di un'altra cosa, del fatto che è stato invitato a una conferenza dell'università a Roma a fare un intervento. Adesso non si sa esattamente, il professore che l'ha invitato, lo psichiatra, ha detto che non era una lectio magistralis, però insomma, di fatto è stato chiamato a parlare a un convegno dove si parlava di gestione del panico. Io immagino le facce di quelli che se lo sono trovati davanti, ma come, proprio lui, proprio lui. Sarebbe come invitare, non so, Emilio Fede o Marco Baldini a un corso su come fare economia domestica, su come risparmiare i soldi, cioè due che hanno sputtanato tutto il loro patrimonio nei casinò. Ecco, il paragone è questo, secondo me. Poi non so, adesso io che mi sbaglio, andiamo, vabbè, intanto possiamo dirlo, diciamo l'ascoltatore che ha vinto, anzi aspettiamo in fondo, magari qualcun altro chiama per i divieti. Andiamo con Paola da Pisa, stasera tanti ascoltatori da Pisa, probabilmente per San Rossore. Prego Paola. Buonasera, sì, grazie. Allora, io chiamo però per una faccenda un po' marginale rispetto alla riunione della GESCI, peraltro non sono d'accordo per... No, è caduta, peccato, ci voleva dire qualcosa sulla riunione degli scout. E niente. Matteo da Vicenza, buonasera. Buonasera, io chiamo per il fatto dell'aumento del numero delle firme necessarie per il referendum. Sì. Sono assolutamente contrario. La democrazia è sempre stata indiretta, sì, perché direttamente è materialmente impossibile farlo. Forse la facevano gli ateniesi quando erano quattro gatti, ma adesso non vedo perché non dare a tutti, non su tutte le leggi, ma più spesso, la possibilità di votare online. Non è un costo e non vedo problemi di sicurezza, perché votare, avere il controllo sulla cosa pubblica è importante, ma già abbiamo il controllo dei nostri soldi con l'home banking, sì, e lo facciamo tranquillamente. Va bene Matteo, mi sembra sì, una proposta un po' futurista, ma chissà. Chiudiamo, vediamo se c'è ancora qualcuno su che cosa, sui divieti. Leonardo da Bari, che poi dobbiamo dire chi ha vinto. Leonardo, buonasera. Buonasera, volevo commentare il dato di oggi sul PIL. Sì. Meno 0,3 sul trimestre e dicono anche sul tendenziale, su tutto il 2014. Sì. E io vorrei dire, non mi sembra la fine del mondo se il 2014 si chiude a meno 0,3, perché meno 0,3 vuol dire che il 2014 praticamente è andato come il 2013, miliardo più miliardo meno. Insomma, lei ci vuole invitare a guardare il bicchiere mezzo pieno. Leonardo, grazie, non c'è spazio per andare oltre, non c'è tempo per andare oltre, perché dobbiamo dire chi ha vinto sul divieto più originale. Diciamo che a giudizio insindacabile della redazione Si può fare, ha vinto Alessandro da Milano, che vuole fare imporre il divieto ai milanesi che sono in vacanza di ritornare dopo agosto, perché lui a Milano adesso sta benissimo. Bravo, vince i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma, non è proprio dietro l'angolo, ma insomma. Grazie a tutti, Lorenzo Nespoli, Camilla Tomadini, Lucia Tolve per l'assistenza in redazione, Fabio Cantatore in regia. Ci sentiamo domani 18, 20 e 30. Ciao, buona serata a tutti, anche da Alessio Maurizio. Ciao.